Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Bentornati signori miei, Pino Insegno ai microfoni di Radio 24, come sempre, come ogni domenica, oggi 9 aprile, cercheremo di farvi compagnia attraverso le nostre voci e le voci anche delle persone magari che non ci sono, come ad esempio oggi alla festa della bravissima Patti Pravo. Eccolo qua. Con la scusa saluto il tecnico dall'altra parte, Valerio, Rachele, grazie come sempre a Alessia Navarro, Mauro Meconi e anche a tutti a Milano che ci permettono la messa in onda. Adesso vi faccio girare. Tu mi fai girare come fossi una bambola e poi mi butti giù come fossi una bambola. Una voce inconfondibile quella di Patti Pravo. E allora auguri, auguri, auguri. Anche oggi si festeggia, non c'è più ovviamente, un grandissimo poeta, un poeta maledetto, Baudelaire, con i suoi fiori del male. Ma faremo leggere qualcosa al prossimo ospite che si avvicinerà a questi microfoni, che sarà Maria Rosario Maggio, una voce straordinaria. E noi invece cominciamo la trasmissione con un ospite italiano, americano, d'oltreoceano, ma una cosa veramente interessante, e ascolteremo delle voci pazzesche, ma nel senso di testimonianza. Lui è Luca Guardabascio, che voi direte, beh, puoi salutare Luca. Buonasera, good afternoon, buon pomeriggio. Sei italo americano allora. Vi racconto che cosa significa Luca in questa trasmissione. Lui è un regista, quarantenne, sei uno scrittore, sceneggiatore, e nel 2015 ha diretto un docufiction molto importante che sta girando il mondo. Si tratta di Andrea Doria, I passeggeri sono in salvo? Giusto. Con il punto interrogativo. Giusto. Ora vi racconto poche righe per raccontarvi questa avventura, disavventura dell'Andrea Doria. Ecco, tutto inizia il 19 giugno 1951, è un giorno importante per la Marina Mercantile Italiana. Il varo della turbonave Andrea Doria, che con la Cristoforo Colombo era la più grande e veloce della marina italiana di linea. Il 22 dicembre 1952, prima crociera sulla rotta di New York, il capitano era Piero Calamai. Il 26 luglio 1956, quando gli orologi segnano le 11:20 di notte, le 4:20 ora italiana, l'orchestra di bordo suonava Arrivederci Roma. Poi un tremendo urto. Le luci si spengono, la musica da ballo cessa di colpo ed iniziano a suonare le sirene d'allarme. L'Andrea Doria era appena stata speronata dal piroscafo svedese Stoccolma che, procedendo in direzione opposta, aveva schiantato la sua prua d'acciaio contro il fianco dell'Andrea Doria. La collisione, pensate, provocò 52 vittime, 46 a bordo della Doria. 1660 le persone tratte in salvo. Le inchieste seguite al disastro avevano addossato la colpa al comandante Piero Calamai, 59 anni, genovese. Questa è una piccola cronistoria di quello che è significato l'Andrea Doria. Luca, partiamo proprio dal titolo del documentario. Chi pronunciò questa frase? La pronunciò il capitano Calamai tanti anni dopo, in realtà, prima di morire. Nel 1972, quindi il peso di aver perso quelle 46 vittime, quei 46 passeggeri, è stata una cosa indescrivibile per un uomo, per un comandante, ma vero, soprattutto comandante, vero, che esatto, non ha abbandonato. Non facciamo paragoni. Ma arrivano naturali ed è giusto che sia così. E il capitano Calamai muore in solitudine, un po' dimenticato da tutti, non dai suoi uomini. E questo peso di aver perso questi 46 passeggeri lo porta fino alla fine. Prima di morire di crepacuore, pronuncia "I passeggeri sono in salvo" e pensa che un mese prima arriva una lettera dall'America, dal comandante Carruthers, in cui gli dice appunto che sapevano con certezza che il capitano Calamai non era stato il colpevole di quella collisione, che era stata invece una manovra azzardata della Stockholm. Il capitano Calamai non apre quella lettera il 12 marzo del 1972 e muore un mese dopo. Dio. forse l'avrebbe salvato, dici, ma sarebbe stato comunque un toccasana, almeno moralmente, anche se ormai secondo me era stato minato nel fisico da una tragedia del genere. Cioè l'ha vissuta con un transfert fortissimo, è come se un medico durante un'operazione perde il paziente e si ammala a sua volta per questa grande perdita. Ma guardi, io quello che ho notato è studiare il personaggio Calamai, ma soprattutto studiare l'essere genovese, che è una cosa che per un campano come me era, vabbè, siamo tutti uguali, invece no. È diverso, certo, ognuno c'ha una storia. Entrare in quel mondo, entrare soprattutto in una persona che sapeva di essere sotto una gerarchia, se lo Stato italiano ti dice di non parlare, di aspettare, tu che fai? Sei un comandante, aspetti. Certo. Ecco la grandezza di un uomo che era comandante 50 anni fa e non magari chi oggi ha fatto... E ha parlato pure troppo. Ha parlato pure troppo. Sta zitto, esatto. Senza che nessuno, anche se nessuno ti dice di stare zitto, tu sta zitto. Bravo, esatto. Tu sta zitto, esatto. Non facciamo nomi perché tanto non c'è bisogno di urlarlo. Mi sembra una storia bellissima. Da qui come è partita questa... In effetti è molto curioso, si è parlato del Titanic, di queste grandi... Sì. Storie drammatiche, ovviamente. Questa è una storia. È una storia in pratica che io nel 2013 stavo scrivendo le bozze del mio libro Pietre sull'Oceano, che parla di emigrazione. E sono andato in un posto dove nessuno voleva andare, Detroit, perché c'era un morto ammazzato praticamente al giorno. Ah. Era una città, sì, una città dove c'era Mr. Bing. Era il Far West, era davvero il Far West. Pensa che i 7 milioni di abitanti che Detroit faceva nel 69 erano arrivati a 700.000 nel 2012. Sì. Va benissimo, non c'entra per frenare le nascite, insomma. Esatto. Cioè, sembra una cosa, no? Esatto. E quindi vado in questo posto dove nessuno vuole andare, perché ho detto, ci sarà una comunità italiana lì. Chiamo il console Maria Luisa Lapresa, originaria della Sicilia, e mi metto in contatto con questo gruppo di italiani che in realtà diceva: ma non vengono italiani qui da tanti anni a fare... Esatto. Visto che c'è una comunicazione non tanto, esatto, carina da quel punto di vista, cioè, evitiamo di andare a Detroit, insomma. E invece ho visto che era una comunità attiva, c'era la Dante Alighieri del Michigan che faceva tanti eventi tra di loro, così, certo, importanti. E tra i tanti italiani, italoamericani, ho conosciuto questa signora, Pierrette Domenica Simpson, Piera Burzio, nata italiana. Simpson, non facciamo paragoni semplicistici, esatto, su delle serie di cartoon che non hanno nessun tipo di, esatto, significato, ovviamente. E lei del Canavese viaggiava su quella nave per ricongiungersi con sua madre, che aveva abbandonato Pranzalido, questa piccola comunità del Canavese, 8 anni prima. Quindi lei non rivedeva sua mamma da 8 anni. Viaggia con i nonni, quindi questi nonni vengono completamente sradicati dalla loro comunità per fare in modo che la nipotina riabbracciasse la mamma. Certo. Quindi era come una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, che si trova catapultata in un incubo. E questo incubo, questa favola incubo, Pierrette me lo racconta quella sera in cui stavo facendo ricerche per un altro. Ah, per un'altra cosa sei andato cosa. Lì? Sì, ah. Sono andato per presentare il mio libro Pietre sull'Oceano, almeno, certo, le bozze. Mi racconta questa storia e lei mi dice: ci voglio fare un film. Ha detto: guarda, un film su un disastro navale. Ha detto: io non lo so, non sono James Cameron. Ha detto: però ci possiamo... No, però lo conosco. Lo conosco. Ci possiamo provare. E lei mi dice: facciamo un cortometraggio. Io le domando: ma scusa, ma quanti sopravvissuti ci sono? Lei mi dice: 200-300 forse, un centinaio li conosco, perché ho fatto molte ricerche, ho pubblicato anche un libro. Sì, anche perché ricordiamo, è successo nel 56, sì, per cui ecco, esatto, giusto, lei che aveva 9 anni, che poi ascolteremo tra poco, sì, perché ci collegheremo con gli Stati Uniti, e dove stiamo aspettando un attimo, perché insomma sono 6 ore di differenza, esatto, per cui ecco, stiamo cercando di fargli fare almeno una doccia prima, esatto, di telefonare. E lei mi dice: è la mia legacy, voglio mettere tutta me stessa, i miei risparmi in questo progetto, che cosa ci possiamo fare? Io ho detto: facciamo un documentario, facciamo un docufilm. Ed è così che è nato Andrea Dori, Passeggeri sono in salvo, con attori conosciuti e con persone prese dal vero. Sì. Hai fatto una sorta di neorealismo, esatto, quotidiano, esatto, e moderno. Beh, una bella avventura. Tu, prima di sentire il trailer, perché abbiamo anche quello, siamo avanti perché ci siamo informati e perché tu sei stato molto carino comunque interfacciarti insieme a noi. Tutti ricordano Andrea Dori proprio per la sua tragica fine, ma la vicenda fu anche il più grande salvataggio, sì, in mare di tutti i tempi. Sì. Bene o male, 1660 persone messe in salvo, cioè una cosa che adesso suona molto moderno, perché quante persone i nostri militari, che sia Guardia di Finanza, che sia la Marina, che sia l'Esercito, mettono in salvo ogni giorno nei nostri mari, poi tu che sei del sud dell'Italia, no, assolutamente. È molto vicina questa cosa, tu che vuoi fare una cosa sull'immigrazione, esatto. Sì, è un discorso che si sta uniformando in un unico gruppo, c'è l'Andrea Doria, il tuo libro Piede sull'Oceano e questo momento storico di persone che cercano la salvezza nella nostra penisola. Io penso che quando si parla di uomini non si sbaglia mai. E quindi antropologicamente sono andato a scavare, a capire che cosa volesse dire essere migrante ieri ed oggi, perché certo, sai, una crisi porta qualcosa di importante. Una crisi spesso è un'occasione, perché se non ci fosse stata una crisi, magari anche persone che avevano un talento qui in Italia o in altri paesi del mondo non riuscivano. È vero, devo dire che sempre, se uno riesce, come si dice sempre, chiuso la porta, sape il portone. Bravo. Ora non è sempre così, ma spesso è così, cioè dalla crisi nasce l'uomo, l'uomo, che sia donna, che sia uomo, eccetera. L'esigenza di rendere la propria vita unica ti porta a fare delle cose impensabili. Eravamo più pronti prima, soprattutto noi, parlo di noi italiani, no? Sì, a partire. Non lavavamo i piatti e poi ci compravamo il ristorante dopo anni di... Adesso qualcuno pretende magari subito il ristorante e si sbaglia, ma andiamo per gradi. Insomma, il primo blocco sta consumandosi, ma è interessantissimo, è una storia bellissima, bellissima, bellissima fra virgolette, ovviamente parliamo sempre di una situazione drammatica ed estrema, però sicuramente affrontata. Il racconto di quel comandante è Shakespeare, sì. È così, è un comandante che pazzesco. Comunque lui torna in famiglia e lui da comandante integerrimo che cosa fa? Si dedica alla famiglia, certo. Si dedica alle figlie, si dedica ai nipoti e non nomina mai, non parla mai dell'Andrea Doria. Solo alla fine, solo i alla passeggeri fine. Sono in Bravo. Salvo. Sì. Va bene, Voice Anatomy, mi raccomando, restate qui perché la nostra trasmissione è appena iniziata. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presento. Anatomy. Eccoci di ritorno, come promesso, signori miei, al mio fianco quest'uomo straordinario che ci sta raccontando un'avventura bellissima, questa dell'Andrea Doria. Ripeto, il bellissima mio è sempre dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista di quello che è successo, che bisogna avere grande rispetto, visto che più di 50 persone, insomma, ci hanno lasciato, perso la vita. Ma 1660 sono state tratte in salvo e dicevamo proprio uno dei più grandi salvataggi, forse il più grande di tutti i tempi. Sì, perché diciamo che le condizioni non erano ideali, ma praticamente quella zona dell'Oceano Atlantico vicino a Nantucket è un po' la Times Square della navigazione, quindi ci sono molte navi di passaggio. Quindi questa cosa ha contribuito a far avvicinare altre navi, tra cui l'Île de France e tante navi che hanno portato in salvo molti uomini. Ma è stato grazie soprattutto alle idee del capitano Calamai e del suo equipaggio, ricordo Guido Badano che era secondo ufficiale sull'Andrea Doria, Giannini e tanti altri, il fatto di non aver mai perso la calma. Loro non hanno mai perso la calma, hanno gestito l'emergenza al meglio, in maniera esatta, e diciamo anche lo Stockholm, che aveva speronato l'Andrea Doria, è stato comunque tra le navi collaborativo. Sì, è stato collaborativo in quel momento, solo che anche lì c'era l'uomo diciamo strano di turno. Infatti un ufficiale governativo è stato il primo purtroppo a lasciare la nave, per questo noi siamo stati accusati, perché un ufficiale governativo che non faceva parte dell'equipaggio ma ci doveva essere perché rappresentava lo Stato italiano, certo, lasciando la nave per primo, e lo Stockholm, vedendo un uomo in divisa che lasciava la nave, hanno pensato ci ha sputtanato, esatto, per dirlo proprio esatto, chiaramente, bravo, come direbbe Cruciani, esatto, ci ha proprio detto, avete visto, oltretutto eccetera, lo hanno abbandonato le persone in divisa perché a quel punto hanno massificato tutto. Bravo. Hanno generalizzato, per cui il povero Calamai. E c'era un tu lo racconteresti, sono affascinato, sì, non vedo l'ora di vedere il film, sì, perché il docufilm assolutamente, ma non vedo l'ora di vedere il film, che io credo che tu lo racconterai attraverso gli occhi del comandante. Io lo racconto attraverso gli occhi del comandante e della bambina. Perché comunque e sono i due opposti, esatto, sono i due, lei in mezzo alle persone e lui Esatto. Infatti stavo rivedendo in questi giorni un po' di roba di Comencini, proprio per dedicarmi ai bambini, così, perché poi è tra gli unici registi italiani che si è dedicato totalmente all'infanzia. E sì, però il Capitano Calamai è un uomo importante. Io non vorrei fare il Titanic, questo perché ne parliamo. No, perché non vuole essere un film d'effetti speciali. No, o ma un film appunto di uomini. Di anzi, uomini. Lo vedrei più come costruzione, faccio sempre un paragone molto alto, al JFK di Oliver Stone, sì, in cui c'è una grande parte di inchiesta, ma vista anche in maniera ingenua da questa bambina, da questo capitano, che si trovano in mezzo a una tragedia, a delle accuse, non sanno nemmeno perché. Perché esatto, poi i sopravvissuti non sapevano perché il Capitano Calamai era stato accusato. Mi stai facendo venire in mente un ultimo film di Clint Eastwood, che è Sully, sì, che parla proprio, ecco, attraverso, a parte un momento di grande effetto speciale nei suoi incubi notturni dove vede il suo aereo schiantarsi su New York, il resto è un film sull'uomo. Bravo. Sull'uomo, sugli uomini che ha salvato. Esattamente questo. L'inchiesta a Los Angeles, ne parlavo con Vincent Spano, che sarà tra i protagonisti poi del film che faremo insieme. Grazie. Se tu vorrai. Ah, no, non lo so se posso. Ma tu ci costi troppo, magari. Lo so, Luca, questo dipende se c'hai De Niro, Hoffman e Pacino, io mi unisco a fare il moschettiere ma con loro. Ma poi chi ridoppia però? Non io, non sono io, quello Giannini, De Sando, insomma ci abbiamo Giorgio Lopez, no, io posso doppiare Vince Spano. Però poi a quel punto vuol dire che non ho fatto io il film. No, lo devi fare. In qualche modo, magari uno... Fai l'ufficiale governativo che lascia. Ecco, non me puoi scegliere un altro, va a fare l'uomo, il verme, no. No, ci sta una bella storia. No, va bene. Una va bella bene. Storia di il dottor... Peterson salva molti sopravvissuti e perde sua moglie e l'aiuto di questo dottor Peterson gli arriva da un cameriere cinquantenne. Oh, eccomi qua. Eccolo pensavo là. Per un attimo che mi davi il dottor Peterson, no. Poi invece sei andato sul cameriere, ci sta. Cameriere, ho la faccia io da alimentarista, per cui va benissimo, insomma. Ci sa, io basta e faccio una posa. Ma se salva il cameriere? Sì. Meno male, almeno questo mi rivedo, almeno c'è un'altra scena. Insomma, guarda che siamo toccati a fare Ruffiano con i registi che vengono ospiti. No, ma diciamo perché ne parliamo, perché il MIBACT ci ha finanziato la fase di sviluppo della sceneggiatura. Ah, per cui siamo già avanti. Oh, che bella cosa. Guarda, Luca, io conosco Luca da prima di questa realtà e... ha avuto sempre lo sguardo, come dice Rocky Balboa, all'occhio della tigre. Uno sguardo già affamato, di grande volontà, e hai affrontato la tua vita bene. Ci siamo sempre sentiti come sta andando, sì, piano piano, tutti gli step. E sono felicissimo. Grazie. Di intervistarti, mi fa proprio piacere. L'ultima volta ti sono visto intorno a un tavolo, durante delle feste natalizie, non mi ricordo bene, natalizie. Ma tanti anni fa. E c'era questo ragazzo, che ancora è un ragazzo, con questi sogni, queste speranze, ma con questa grande voglia. Assolutamente. E c'è, ci sta, mi piace infatti, veramente in tanto. In una dedica che ti ho fatto prima ho scritto premio Nobel 2039. Esatto, perché prevedi questa. Prevedo questa cosa. Bello, questo te la ruberò, farò degli autografi dicendo Vino Insegno, premio Oscar 2041, esatto. Cosa del genere. Miglior attore, beh non è male, ma è molto divertente. Quanto dura il trailer, chiedo a Rachele, 2 minuti? Allora io lo ascolterei prima che finisce questo secondo blocco, prima di affrontare la telefonata con una dei sopravvissuti. Ascoltiamo il trailer di Andrea Doria, I passeggeri. Ricordo il giorno in cui lasciai tutti in paese, la scuola e i tanti amici che fecero parte dei primi 9 anni della mia vita. Dobbiamo salutare tutti quanti una persona. Io vado a trovare la mia mamma in America. Per me e per i miei nonni doveva essere una traversata piena di gioia a bordo di una delle navi più belle e sicure dell'epoca, l'Andrea Doria. Mi chiamo Piero Calamai, comandante del transatlantico Andrea Doria durante la sua ultima rotta. Sarei dovuto andare a fondo. Una nave che io non ho mai abbandonato del tutto. Sarei morto con coraggio. Chi mi conosce sa che io lì sopra ci sarei rimasto sino alla fine. E le partenze c'erano tutti. A salutare un paese in festa. Credevo di vivere un sogno. Ero sicuro delle scelte fatte per la salvaguardia dei passeggeri. Io ho seguito le leggi del mare fino all'ultimo respiro. D'improvviso la favola bella si trasformò in un incubo. Il peso di aver perso 46 dei miei passeggeri è stata la mia condanna. Al mondo esistono gli eroi. Il Capitano Calamai divenne il nostro angelo. Ci salvò da morte certa. Prima di quella tragica notte del 25 luglio 1956, davanti a me io vedevo il futuro, dopo ho visto soltanto buio. Per lui contava soltanto questo fatto del Doria. che lui aveva ragione e non ha potuto parlare. Il capitano Calamai fu il vero capo espiatorio. È vero che Calamai non diede mai l'ordine di abbandonare la nave? Prima di morire Calamai ebbe modo di vedere tutte le prove scientifiche che lo scagionano? Lei pensa che i Lloyd's di Londra possano aver fatto in modo di non portare in tribunale il caso? Le critiche mosse da certi superstiti a quei marinai sono profondamente ingiuste. Sono circa 60 anni che noi aspettiamo una verità non detta. Lo dobbiamo a tanti uomini e donne di terre diverse, come mio nonno, che in Italia non ritornò mai più. Lo dobbiamo soprattutto a quell'uomo, quel capitano, quell'angelo. Quell'angelo. Brividi, brividi. Bellissime, sì. Stiamo parlando tanto di un trailer fatto a docufiction. Questa è anche una bellissima fiction, puntata. Fare un film lungo e poi lo dividerei anche in puntate televisive. Assolutamente. Ma che bella cosa. Abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra amica, la tua amica sopravvissuta, la produttrice anche del film Pierette e Domenica Simpson. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e torneremo con la viva voce di questa ex bambina di 9 anni che è sopravvissuta a questo disastro. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. E come promesso, signori miei, siamo tornati. Al mio fianco c'è sempre Luca Guardabascio, regista, scrittore, sceneggiatore, ma soprattutto il regista di questa straordinaria storia, di questo docufiction che diventerà prestissimo un grandissimo film. Con me e Robert De Niro, Andrea Doria e i passeggeri sono in salvo. Abbiamo parlato all'inizio di questa storia, di questa piccola, di questa bambina che andava con i nonni per tornare ad abbracciare i suoi genitori. Aveva 9 anni ed è una dei sopravvissuti, un'altra che ha il nome di Calamai, del comandante, nel cuore. E noi abbiamo la fortuna di averla per telefono direttamente dagli Stati Uniti, adesso precisamente, non so, forse da New York stessa. Lei sta a Detroit, ed è in partenza, ecco, per San Luis, ecco, dove il film verrà presentato fra qualche giorno, sì. E benissimo, e allora abbiamo al telefono Pierette Domenica Simpson. Signora, buongiorno. Ciao Pierette. Buongiorno. Come sta? Che bello questo modo di parlare l'italiano tipo Don Lurio, mi piace molto. Pierette, senti. Allora, il mio italiano non è perfetto. Neanche il mio, anche il mio, Pierette, anche il mio non è perfetto. Siamo pari, tranquilla, tranquilla, va bene così. Pierette, qui c'è Luca al mio fianco che ti sta salutando. Ciao Pierette, come va? Ciao Luca! Che bello, bene. Sembrava Roberto! Sì, esatto. Sembrava che hai vinto l'Oscar. Senti Pierette, è una storia drammaticamente straordinaria. Il fatto che sia la tua legacy e che tu abbia scelto Luca per raccontarla mi fa molto molto piacere, non vedo l'ora di vederla sul grande schermo. Come nato? Ma assolutamente sì, è una storia che bisogna portare, questi eroi, questi grandi uomini, soprattutto poi nostri, italiani, bisogna raccontarla. Questa nazione è fatta da grandi uomini, giusto. E questo grande uomo nascosto, è stato nascosto per troppo tempo, ha dedicato la sua vita e ha regalato la sua vita alle persone che ha perso in mare. Bisognerebbe trasmetterlo a quel signore che invece ha abbandonato la nave prima delle persone. E sì, una cosa. Pierette, tu sei sposata, di figli, come va la tua vita? Ho un compagno, Richard Hesker, che è anche il fotografo per il film. Uh-huh. La vita va bene. Oltre il tempo al Michigan che fa brutto. Ah, è brutto il tempo in Michigan? Adesso fa molto freddo, nevica ancora. Ma dai, bella. Pensa che però qui c'è il sole, siamo a 18 gradi, voi nel Michigan invece avete freddo. Vorrei venire a trovarvi. Verrai qui in Italia, insomma il film è stato presentato ma sarà ancora raccontato, sì, in giro per questa penisola. Piera, tu sei autrice tra l'altro di un libro della Spelling & Coffer, se si pronuncia così, va bene, chiedo scusa come sempre delle mie lingue, L'ultima notte dell'Andrea Doria, anche da qui. Quando sei entrata in contatto con Piera, quando hai capito che il suo libro poteva diventare un documentario? Così vi siete incontrati per caso, mi raccontava, sì, Luca, sì, vero? Ci siamo incontrati durante questa giornata organizzata dal console di Detroit, in cui appunto ho conosciuto persone straordinarie, tra tutte appunto questa donna unica. Esempio di donna moderna già 50 anni fa, già, esatto, all'epoca. Quindi che ricordi hai di quella giornata? Cosa è successo nel cuore e nella testa di una bambina in quel momento, Piera? Che ti è successo quando dalla musica di Arrivederci Roma, che non vuole essere ironica nei confronti di una settimana vissuta a Roma con un derby vinto dalla Lazio, assolutamente no. Da quella musica si è passata alle sirene dell'allarme, Piera. Che è scattato nella testa di una bambina? Pensavi fosse un gioco? Che cosa è successo? È stato un frustuono enorme. Non capivamo, io non capivo nulla. Non sapevo, non conoscevo la storia del Titanic, quindi non capivo che cosa era un incidente in mare, però ho capito che c'era una cosa molto pericolosa, perché tutti gridavano, moglie, padri, sorelle gridavano, chiamavano i figli, nomi degli altri, le luci. Certo. Andavano e venivano e sentivo questa parola Titanic. Oh mio Dio, è vero. Sì. Avevo tanta paura, per fortuna ero con la nonna e ci tenevamo strette e cadevamo perché la nave è andata dal lato di destra in aria e poi... si è inclinata al lato di sinistra, è tornata al centro e poi si è inclinata di nuovo al lato di destra. E non era un film, non era un film, era la realtà, era la vera e cruda realtà. Assolutamente, sì. E poi dopo di qualche un po' di tempo le luci sono tornate. Abbiamo sentito di andare ai come si dice, i posti di ricars, dove i posti di raccolta, i luoghi di raccolta, sì. Master stations, master, sì. Dove la gente si riunisce per, certo, essere aiutati a abbandonare la nave. E si sentiva pochissimo, però non potevamo muovere. Finalmente è arrivato mio nonno e mi ricordo i suoi occhi blu, proprio traumatizzati. È venuto, si è riunito con noi e abbiamo pregato per 2, 3, 4 ore, non mi ricordo. Un tempo interminabile. Interminabile, mentre che la nave calava al fondo dell'Atlantico, vicino a Nantucket. E poi, alla fine di queste preghiere, abbiamo sentito la voce di un uomo che ha detto: le scialuppe delle navi di salvataggio sono arrivate, dobbiamo abbandonare la nave. Questo mi ha fatto veramente paura. Potevo immaginare abbandonare la nave. Certo, per andare dove? Di notte, nella nebbia, la nave inclinata, e abbiamo arrampicato per uscire e poi abbiamo fatto questa, non so, catena umana, tenendovi le mani, sì, lo stai parlando benissimo. Sì, per arrivare al punto dove dovevamo essere aiutati a calare nelle scialuppe. Io personalmente, dato che ero piccola, ho avuto l'aiuto di due uomini che hanno legato una corda attraverso la mia vita e mi hanno calato e io gridavo lasciando i miei nonni sulla nave, non vedendo neanche la scialuppa perché era sotto l'inclinazione. Questo era un momento molto traumatizzante, devo dire. Poi i tuoi nonni ti hanno raggiunto? Ti hanno raggiunto i nonni? Sono fra le persone in salvo? Mi hanno raggiunto i nonni calando proprio traumatizzati. Racconta... Mia nonna aveva sempre paura dell'acqua, quindi non posso immaginare una scena più drammatica, più difficile, certo. Sì. E poi vi siete riabbracciati, immagino, sulla scialuppa, insomma, sei riuscita a riavvicinarti ai tuoi nonni, e stare vicino a sì, loro. Sì, certo, e questo è stato una grande fortuna, perché tante famiglie erano separate, certo, sia durante la collisione o durante il salvataggio. Per fortuna noi eravamo insieme, ma questo piccolo viaggio di 45 minuti all'Île-de-France, la nostra nave di salvataggio francese, era un incubo. Eravamo tutti molto, come si dice, mal de mer, ammalati. A me, impauriti, infreddoliti, c'era tutto, c'era qualsiasi cosa. Mamma mia. Vomitavamo, come si dice. Sì, succede. Sì, sì, e tutti però, perché sì, eravamo traumatizzati. E poi le onde che venivano dalla distanza del luogo dove c'è stata la collisione, c'era un grossissimo buco che creava delle onde. Certo, e anche quindi un vortice scialuppa... che poteva trascinare a fondo le scialuppe anche. Bravo, ha capito. Sì. Quante volte ci pensi ancora nella tua vita? Non è mai passata quella notte nella tua testa, immagino, dal tuo cuore? Non ti ha mai abbandonato? Sto lavorando sull'Andrea Doria, quindi spesso, molto spesso, quello perché... che penso... Ci pensi sempre. Senti, Pieretta, perché è così importante raccontare la storia di questo grande comandante? Forse il mio aggettivo già dice il perché. Sì. È importante, eh? Molto importante. Ho saputo la verità, ho capito la verità tramite un capitano americano, che con lui e altri scientifici avevano non mi sarei corretto neanch'io, pensa. Pensavo che era giusto. Pensa un po'. Grazie, molto gentile. Ma no, sono come te e basta. Solamente che io vivo in Italia. Avevano creato un computer simulator Merchant Marine Academy di New York, che proprio simulava la collisione. L'angolo dell'approccio, sì, dell'engagement, vabbè, dell'approccio. Sì, è uguale approccio. Con l'Andrea Doria. E proprio mi sono arrabbiata pensando, ma com'è possibile che questi scientifici sanno la verità, hanno pubblicato la verità in riviste solo proprio scientifiche e il pubblico non sa la verità. Certo. Com'è possibile? Quindi mi sono lanciata alla scrittura. Brava, questa è una grande, questa è legacy che dicevi, proprio il testamento vivente di un racconto per ridare la giusta magnificenza, la giusta posizione nell'Olimpo di questi grandi personaggi. Pierrette, grazie. Grazie per questa Voice Anatomy, si intitola, per cui la voce di una sopravvissuta di una tragedia del genere e che sta facendo di tutto per cercare di raccontare la verità e far ridiventare un eroe, un uomo semplice che ha regalato la sua vita alle persone che ha perso e non era colpa sua. Anzi, ne ha salvate altri 1660. Assolutamente. Grazie Pierrette, veramente. Grazie. Grazie a te Luca, grazie signore. Pino, signore non mi ci chiama più nessuno da anni in Italia, mi chiamo Pino, per te il mio nome è Pino Insegno, in inglese è Joe I Teach, in la traduzione. Ah sì, è vero. Sono Pino Insegno, non so se tu magari con la televisione italiana hai visto qualche volta la premiata ditta o me, però non fa niente. Sì. Sì, va bene, sì. Mi piace questa bugia, però mi fa piacere. Senti, non lo so che all'estero gli italiani amano l'Italia molto più di noi, sì, che la viviamo, sì, per cui... Pierrette, io ti abbraccio forte, grazie, quando farete i provini per il film ricordati di me, raccomandami, va bene? Grazie mille, signore, molto bellissimo. Gentile, è stato un piacere. È stato un piacere, it's a big pleasure for me, big hug to you. Love you and have a nice life. Non si dice, ma io lo dico. Love you, Pierrette. wonderful. I love you both too. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you. Grazie, Pierrette. Ciao, ciao tesoro. Un abbraccio a te e alla tua famiglia. Che bello. Ascolterei questa trasmissione per ore oggi, veramente, l'ascolterei, non la farei, l'ascolterei. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Voice Anatomy. Bentornati signori, io sono veramente in fibrillazione perché sto vivendo questa puntata come se fosse realmente una fiction, come se fosse davvero un film. Al mio fianco Luca Guardabascio, autore e regista di questo racconto, di questa docufiction che diventerà prestissimo un grandissimo film internazionale, che è l'Andrea Doria, Passeggeri solo in salvo, e questa storia di questo comandante calamai rivalutato, che ci ha lasciato, ha regalato la sua vita, è morto di crepacuore per le persone che aveva perso, dimenticandosi per un attimo che ne ha salvate 1660, esatto. Ma la sua vita l'ha dedicata a quel ricordo e l'ha portato fino alla fine, fino a che è stato rivalutato ovviamente postumo, e adesso si sta giustamente raccontando questa storia grazie anche all'energia dei sopravvissuti che insieme a Luca hanno affrontato questo tema e l'hanno già fatto diventare una piccola grande realtà. Luca. Ed è la prima volta che la famiglia Calamai entra in un progetto, perché prima non aveva mai parlato, perché proprio gli organi di Stato hanno offeso Calamai, quindi i documentari che sono stati fatti in precedenza erano quasi favorire il fatto che si era andato contro Calamai, invece noi, facendolo in modo indipendente, la famiglia per la prima volta dà testimonianza. Io dico, è pazzesco, abbiamo degli eroi nascosti. Abbiamo una doppia presenza, abbiamo salutato Pierrette, invece Pierrette è rimasta perché ha saputo, Luca, che chiamavamo un'altra persona, un'altra sopravvissuta che all'epoca era più grande di Pierrette, aveva 16 anni, adesso è una signora di una certa età, ma sempre vispa e gagliarda, come si dice, esatto. Che si chiama Ada, io mi ricordo il nome e il cognome. Di Fabio. Ada Di Fabio. Ada Di Fabio, anche lei una sopravvissuta, sì, di questa avventura dell'Andrea Doria. Allora, Voice Anatomy vuole ascoltare la voce. Ada, ci sei? Sì, ci sono presente. Comunque, grazie delle parole così grande che mi date, mi sento molto orgogliosa di questo. Beh, Ada, se vuoi salutare, c'è ancora Pierrette in linea. Pierrette, ci sei? Sì, ci sono, grazie. Ecco, potete salutarvi, potete parlare anche inglese fra voi per un attimo. Hello, buongiorno Pierrette. Ecco, Ada, it's good to hear you. Thank you for joining us. Thank you to you for the invitation. Thank you. Però parlano bene inglese, sentito. Parlate benissimo inglese, siete straordinari. Oh, è quello che manca a me. Ada, tu avevi 16 anni e mi stava raccontando Luca che il viaggio è stato ancora più faticoso per te, nel senso che anche per Pierrette era in seconda classe, tu addirittura eri in terza classe, per cui è ancora più difficile arrivare alla salvezza, visto che la posizione magari nella nave era ancora in una posizione difficile. Dove eri sistemata nell'Andrea Doria in terza classe? Allora, quello che mi ha aiutato anche la terza classe, l'Andrea Doria era una bellissima nave che io sono cresciuta in un piccolo paese, non conoscevo le navi, non conoscevo il mondo fuori dal paese. Comunque io, per me era comodo, era bella, benché era sola. Ho compiuto 16 anni sulla nave e questo ho un ricordo, anche le serate dove c'era tempo di stare in compagnia. E comunque io non so dove incomincio. Come mai ti sei trovata sull'Andrea Doria? Stavi andando... Allora, io sono nata nel 1940. Sono cresciuta durante la guerra. In Italia? Tu sei nata in Italia, immagino, no? Io sono nata allora a Monteferrante, provincia di Chieti, in Abruzzo. In Abruzzo, certo. Okay. E questo paese, durante la guerra, dopo la guerra, c'era tanta, dopo che i tedeschi sono andati via, che io ricordo benissimo di queste flash, comunque le persone, le mamme, i genitori, ci hanno portato via di casa per un po' di tempo, siamo andati a vivere nelle campagne. Comunque questo rimane in noi. E poi la fine del 40, nel 50, 54, 55, chi aveva dei parenti in America che si potevano raggiungere. Dare responsabilità a noi, mm-hmm. Almeno per 2 anni, per mantenerci a casa sua, per mandare a scuola oppure al lavoro. E allora, cioè, io avevo uno zio sposato, che io sono cresciuta con quella, l'America, noi giovani, ai paesi nostri, non c'era un futuro, per le ragazze, ok? E allora mamma mi ha dato il permesso di... Lei ha scritto al fratello, dice così e così, e allora mio zio, che io le ringrazio, adesso non c'è più, ha preso responsabilità di questa ragazza che non conosceva, e io sono stata sempre grata su questo. Comunque il 18 luglio sono stata imbarcata, mm-hmm. con altre 8 paesani dal mio paese, sì. che venivano con Andrea Doria, mm-hmm. e uno di loro mi ha fatto anche garanzia, perché io era minorenna, aveva 15 anni, 16 anni l'ho compiuto sulla nave il 21 luglio, mm-hmm. comunque ricorda, quando uno si cresce nei paesi durante la guerra, tutto questo, si cresce, modo di dire, si diventa, sì. responsabilità, si diventa grandi prima, certo, si diventa grandi prima, purtroppo, sì, brava, sì, sfortunatamente, ma certo. È andato anche bene così. Comunque durante il viaggio siamo stati uniti, ho fatto tante conoscenze sulla nave, e anche che sono andando alla terza classe, io non sapevo, non conoscevo nella prima, nella seconda, per me la terza era andata bene. Però era una nave fatta bene, per cui anche la terza classe, sì. insomma, era accessibile, sì, non era, sì, certo, sì, nelle, sì. in fondo alla nave, in fondo alla stiva, insomma, era una terza classe onesta, ecco. Sì, ma certo, comunque non abbiamo fatto a meno di altro, di niente. Certo, non vi mancava niente, certo. Sì, sì. E in quella camera c'era, in quella cameretta c'era una signora un po' più adulta, e poi c'è una mamma giovane con un bambino, mm-hmm. che eravamo 4, c'erano 4 lettini, e io dormivo al lettino sopra, e comunque siamo conosciuti, non conoscevo nessuno, poi non ho avuto mai paura di incontrare persone nuove che mi sei curiosa una... sei curiosa, ma sei sposata? No. Sei sposata? Allora, sono sposata di 56 anni. Ehi, mamma mia, che bello, hai superato le nozze d'oro, the golden, non so come si dice in inglese. Sì, però. Il 3 di luglio compio 56 anni sposato con mio marito. Gennaro, che salutiamo. Gennaro, dove l'hai conosciuto? Dove l'hai conosciuto? È paesano abruzzese anche lui, l'hai conosciuto dove? Paesano, siamo cresciuti insieme, poi ci siamo riuniti qui in America. Comunque, che bello. 3 figli, Giovanni, Gina e Maria, e 6 fantastici nipoti. Che bella vita, vedi che cosa... Comunque la vita mi ha dato una piena di orgoglio e di gioia. Comunque, non so, io ritorno indietro a quella notte, alla nave, certo. La mia storia, comunque sì. io... La rinascita è stata lì, quasi l'addio alla vita, invece... Hai ritrovato la forza di andare avanti e ricominciare, e cominciarla quella vita. No, curiosa, come lei ha detto, curiosa in tutto, uh-huh. ma però quella notte, quando queste tragiche cose ci incontrano nella vita, non dimentichiamo che siamo bambine, certo. Noi che diciamo che uno di 16 anni si crede che sa tutto, non no. Assolutamente niente. No, ancora no. Comunque... Ancora non avevi incontrato Gennaro, ancora non sapevi niente. No, Gennaro li conoscevo perché siamo andati a scuola insieme al paese. Certo. Durante la guerra abbiamo vissuto tutti e due le cose che... Certo, e quella notte, Ada, com'è stata per te invece? Allora... Pierrette ce l'ha raccontata, tu come l'hai vissuto, quelle sirene notte... e quel trambusto? Allora, io sono stata con amici fuori alla sala da ballo, perché quando uno è giovane deve ballare e basta. Certo, e basta. Sono ritornata in cabina, e mi ho preso il vestito che io avevo preparato per per fare una bella figura per i miei zii, perché io non conoscevo, loro non conoscevano me. Comunque mi ho tolto il vestito, le scarpe, l'ho appoggiato sul tavolino e poi mentre stavo preparando per salire quelle scale per andare a letto, la nave è stata, non la nave, io ho sentito un'esplosione. Mm-hmm. Siccome la mia gabina stava dietro, la nave sotto, ma di dietro al rotondo della nave, ok? Mm-hmm. Mi trovavo lontano dell'esplosione dove è successo. Certo. Ma la nave si è inclinata subito. Certo. E io, benché sono nato in un piccolo paese, sapevo che le cose non andavano bene, non stavano andando bene, no. Assolutamente no. Comunque ho chiamato i miei compagni dalla cabina, si svegliatevi che le cose non va bene, e sono fuggita, ho preso il mio vestito, le mie scarpe, me l'ho stretta in petto, e io mi sembra che sono stata la prima in quel dipartimento, perché non ho visto nessuno stava davanti a me, nessuno dietro, e mi sono trovata sotto delle scale dove io avevo appena scesa. Mm-hmm. E poi ho visto che la nave stava tutto a un lato, e mani e piedi, io ho salito su, e un odore di fumo, di olio, mi ricordo che non era tanto favorevole, mi sono trovato sopra il salone dove io avevo appena lasciato. Certo. E tutto, i divani, le sedie, stava tutto a un lato, perché come la nave si era inclinata, certo. Sì, era un po' buio anche, e mi sono rivestita e i lamenti, le voci si sentiva fuori, ok? In questo momento ho sentito una voce in quella camera mezza buia, mi ha detto: dove è la giacca di salvataggio? E in quel momento ho detto che mi sono dimenticata, ma però quello che dicevo a 16 anni, noi crediamo che sappiamo tutto. L'istruzione ce l'avevano dato il primo giorno che siamo andati a bordo, e non è stato rispettata. Senti Ada, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, ma un minuto soltanto, può rimanere in linea? Nel frattempo però saluto Pierrette, che era rimasta per salutarti, e io la risaluto, Pierrette, e continueremo il discorso con Ada, va bene? Un abbraccio, Pierrette. Grazie ancora. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao. Invece Ada resta in ascolto, torniamo da te fra 30 secondi, grazie. Bene, grazie. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, siamo sempre qui con Luca Guardabascio, vi ribadisco, regista e autore, insieme a questa straordinaria, stavo dicendo, banda di sopravvissuti, questo gruppo, perché mi piace, perché sono goliardici, si stanno comportando in maniera entusiastica per affrontare questo progetto che rivaluterà una notte, un uomo, un equipaggio, un eroe. Involontario, perché lo era di default, lui era il comandante, lui non ha abbandonato la nave, lui ha aiutato e ha salvato 1600 persone. Esatto. E sono purtroppo solo, fra virgolette, morte 52 persone su 1652. No, ma dà dignità a tutti gli emigranti. Dignità a tutti gli emigranti. Esatto. Quello che voglio dire è questo: noi spesso ci dimentichiamo che siamo stati quelli quelli adesso. Ma non solo quello, soprattutto gli italoamericani, quando vengono in Italia, vivono questo dramma, che loro, per gli italiani, anche se sono nati in Italia, sono americani. Sì. E per gli americani sono italiani. Questa sì. È schizofrenica come cosa. È vero, e quindi loro vivono malissimo questa condizione. Io ho visti piangere per questa cosa. No, io poi ribadisco, abbiamo Ada in diretta, un'altra dei sopravvissuti che sta vivendo questa avventura della ricostruzione fiction scenica di questa avventura, questa disavventura. Ed è così, io quando vado all'estero e trovo gli italiani che sono nati all'estero e vivono all'estero, amano, lo riurlo da questi microfoni di Radio 24, amano l'Italia molto più di quanto la amiamo noi che ci viviamo. Forse qualcuno dirà, perché non stanno qui, ho capito, ma cerchiamo di mettere quell'amore che ci mettono loro, stando qui magari riusciamo a fare qualcosa di meglio, a combattere certe realtà. D'accordo. Ma non è questo il tema della puntata, ma è la voce di questi di Ada, che è uno dei sopravvissuti, che aveva 16 anni, e siamo arrivati al punto dove tu sei riuscita a fuggire dalla tua cabina, sei arrivata e ti hanno detto: ma il giubbotto di salvataggio, tu che eri una sedicenne che pensava a ballare, non conosceva tutto della vita ma pensava di sapere tutto, dice: ecco, non vi ho ascoltato quando voi invece mi avete detto in caso di prendere il giubbotto. Siamo arrivati lì, Ada, e poi che è successo? Allora, la voce che io ho sentito del giubbotto era un giovane sacerdote che lui celebrava la messa per noi di mattino, e lui il gesto che ha fatto, si è preso la sua e me l'ha dato a me. A me quel giorno, quel momento, quando io ci ripenso, ha messo la mia vita prima della sua. Perché Papa Francesco sarebbe contento di questo gesto. Papa sì. Francesco sarebbe felice. No, ma questo è la verità. Ma in questo quel è quello momento, che dovrebbe essere, no? Che noi, che comunque io questo l'ho riconosciuto, perché di mattina non c'era altro che fare, andare a messa. Eravamo certo. abituati a fare questo. Comunque dopo di questo sono andata fuori, dove c'era tutto il dramma. Certo. E di diverse classi che stavano fuori, e si strillava, si piangeva, si dormiva, si pregava, e io sola, rimbambita, io sapevo che è una cosa malissima, e poi la nave non era dritta come stava prima. Certo. E in quel momento ho sentito, benché io volevo andare lontano dalla mia famiglia, volevo oltre comunque non trovo parole su questo. Mi sono sentita sola, perché la mamma, la mia adorata nonna, non c'era, che mi coccolava e mi diceva: va bene, è andata così. Ma però io da quella giacca di salvataggio ho sentito ogni momento le mani del Signore nel mio corpo. Te lo ricordi il nome del sacerdote, Ada? Sì, ce l'ho. Va bene. Padre Kelly, giusto? Sì, Padre Kelly, sì. Perché dopo tanti anni i miei figli hanno fatto ricerche e mi hanno mandato anche la sua foto. Padre Kelly era giovanissimo, che si trovava al nostro... Lui si è salvato poi, ecco... Dice... Sembra di sì. Sì, dice anche Luca che ormai lui ha studiato si è salvato Padre Kelly, per cui sì, bene. E allora mi sembra che io sono stata la prima, il primo caso che... Perché poi, come ha scritto Pierrette, che i sacerdoti, le suore hanno aiutato a dare le giacche di salvataggio, perché io non era sola senza. Certo. Erano anche tanti senza vestiti addosso, perché sono fuggiti. Per scappare, certo. Sono scappati fuori dalla cabina, perché tu non pensi che ti deve vestire, è inutile parlare. Comunque questo era... E poi il dramma che io mi ha mancato mamma, papà, la mia nonna, mia sorella. Certo, eri sola. Stava sola, ma però non ho pianto. La mia disperazione che io moriva, perché lì si aspettava di morire, certo. Non c'era altro. E la notizia per i miei non sarà stata tanto bella, perché... Certo. Perdere una figlia, dare l'opportunità a una figlia lontana, e poi si è il dolore più grande, poi. Sopravvivere a un figlio credo che sia il dolore più grande del mondo. E io questo che pensavo a questo. Pensavi alla tragedia di tua madre e tuo padre, insomma, di tutti i tuoi parenti. Sì, sono stata abbastanza calma. Io ascoltavo, sentivo tutto quello che... Poi prima si sentiva dei urli, dei lamenti, le voci che si chiamavano, famiglie che si erano un po' sparpagliate, certo. Dagli uomini, mogli e figli. Poi ad un tratto era tutto un silenzio, si sentiva soltanto delle preghiere e basta. E siamo stati tante ore, perché poi la nave, dall'inizio dove sono arrivata e quando stavamo lasciando, la nave proprio si aveva inclinata tanto che non potevamo stare. Quante ore? Circa sono state 4 ore, mi diceva prima Pierrette, anche di più. Le 4 e mezzo di mattino mi sembra che siamo stati avvisati, può darsi sì. pure un'ora di meno, non lo so. No, le 4:20, si parla delle 4:20, ora italiana, insomma, si parla più o meno. Siamo stati avvisati di andare al lato basso. Sì. Siamo messi in fila, poi perché c'era la nebbia, il legno della nave era bagnata, queste cosette io le ricordo, perché le scarpe mi scivolava sul legno, sulla nave, ma siamo riusciti ad andare al lato basso, dove avevano messo delle corde appese. E, per poi calarvi nelle scialuppe? Per un momento a me ha detto, senta, prendi una corda e devi scendere sola, e che la scialuppa ti aspetta sotto. E io ho esitato un po', certo, perché benché io salivo dagli alberi, tutta la mia fanciullezza stavo sempre salire, per non gli scendere. Alberi, ma era allenata in quelle tante cose, comunque era, e l'ho fatta, e io mi ricordo che mi sono aggrappata stretta a questa corda, e scendendo avevo arrivato quasi al punto che per loro bastava. M'hanno preso, proprio io delle volte mi risento ancora, e m'hanno seduta, perché era una ragazzina, m'hanno seduta alla scialuppa, dove la scialuppa già era piena. Certo. Ok? E allora in quel momento mi sono sentita, va bene, andiamo verso qualche cosa. I tuoi compagni della stanza, quella giovane donna col bambino, sono salvati? Non lo so, quello non l'hai mai saputo. Non l'ho mai saputo perché io non ho aspettato, e poi non avevo l'indirizzo, non è che noi avevamo... No, certo, non vi eravate scambiati, anche perché non sapevate, qualcuno di loro non sapeva neanche forse dove andare. Sì, quello sì, e poi... Benché io avevo conosciuto una carissima signora, ma questa sarebbe un'altra storia. Io farei una trasmissione intera su di voi, guardate, sono più di un'ora che siamo con Luca a raccontare questa storia, e mi rendo conto che servirebbe almeno un'altra 2 ore per raccontarla, ma sicuramente con questa avventura della docufiction che avete già realizzato, che sta girando il mondo con le sue presentazioni, ma soprattutto con questa grande possibilità di raccontarlo in maniera filmica, per far conoscere al mondo la verità di un grande uomo, di un uomo che ha salvato con il suo equipaggio tutta questa gente, l'onestà di tutte le persone che hanno fatto parte. Per questo vi siete anche salvati, perché ognuno ha fatto il suo dovere, ognuno ha aiutato l'altro, non ci sono stati sciacalli, ma ci sono state persone che hanno regalato la sua vita per un'altra, magari salvando pure loro stessi dopo, come è stato il caso di Patrick Kelly. Ma questa è una bellissima storia, ed è bello sentirla dalle vive voci di voi sopravvissuti. Grazie Ada, grazie davvero di questa testimonianza, in bocca al lupo, good luck, good life, good everything. Thank you Ada, grazie. Thank you. Sì, allora, ciao, siamo in termine, siamo finiti? Sì, siamo finiti. È finito. È tutto finito. Noi continueremo qui dagli studi di Roma. Poi ti chiama Luca, allora, un bacio a Gennaro. Grazie. Un grande abbraccio a voi tutti italiani e buona Pasqua a tutti. Grazie tesoro, dai un bacio anche a Gennaro. Ciao. E auguri, grazie. Ciao. Voi restate ancora con noi, abbiamo un altro momento, a questo punto ci allunghiamo un po' con l'amico Luca per chiudere questa avventura, e dopo saremo con altri ospiti. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presento Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, in questo lungo ma breve viaggio di questa intervista con Luca Guardabascio e con i sopravvissuti, due delle sopravvissute di questa dell'Andrea Doria. Stiamo parlando di questo viaggio del 26 luglio del 1956, quando 52 persone hanno perso la vita, ma 1660 hanno ritrovato una vita che stava per andarsene, grazie al grandissimo comandante Piero Calamai, che ha salutato la vita non sapendo che era un eroe. Era un eroe, era un eroe. E questo a docufiction racconterà lo racconterà, e questo film lo racconterà. Nella docufiction, infatti, il ruolo del Capitano Calamai è interpretato da un attore, Fabio Mazzari, che ha avuto un momento di grande successo in Italia grazie a Vivere. Poi noi ci leghiamo troppo però alle soap, invece devo dire che è stato straordinario e soprattutto mi ha dato il tempo per poter lavorare sul personaggio, così come tutti gli altri, certo. Lucia Bendia, che ha interpretato Pierrette, Giordano Petri, che interpretava un giornalista, e devo dire tutta la comunità di Pranzalito, il paese natio di Pierrette. Le persone di oggi hanno interpretato i loro nonni e i loro genitori nella scena della partenza, quindi è stata una cosa affascinante, bellissimo. È stato un modo anche questo per riportarli in vita, sì, per ritenerli vicino, giusto, a loro. Beh, bello. Poi leggo alcune notizie. C'è stata una bellissima anteprima a Genova, proprio la città da cui, sì, salpò l'Andrea Doria per l'ultima volta, e poi il documentario viene curato il Salerno Film Festival. Tu sei di Polla, in provincia di Salerno, e come è stato presentato il documentario nella tua terra? L'abbiamo presentato a Deboli, perché io vivo lì, abbiamo avuto 1200 persone la prima sera, quindi è stato straordinario. Infatti tanto adesso hanno detto: qualsiasi cosa devi girare, vieni qua, ti diamo tutto, ti diamo soldi, ti diamo mezzi, ti diamo... Per cui non ci fermeremo, non ci fermeremo, come qualcuno, no, più famoso di noi si è fermato, ma andremo avanti. Da Eboli si parte. Esatto. Noi non ci fermiamo a Eboli. Infatti stiamo preparando delle cose, tra gli altri ci sarà un film che girerò durante questo intervallo. Mentre per cui ti chiamo, certo, a fine agosto. Mi devo fare il cameriere, esatto, sull'Andrea Doria. Qua ti faccio fare il burino. Ma perché? Ma senta, no, Luca, scherzo. Siamo amici, ho creduto in te dal primo faccio giorno. Fare il sindaco. Il sindaco. L'importante è che non muoia subito, no, e che sia subito uno non corrotto, insomma, una persona... Ed è un film, senti, un po' con Anna Rita Del Piano, che ti saluta. Bene. Con Udo Kier, grande attore, e sì, stiamo parlando con Chaz Palmenteri. Ah, un altro titolo americano, Gagliardo. Esatto. Questi sono forti, questi. Veramente ci sono tanti attori. Poi c'è veramente gli attori americani, italiani, sono tanti. No, ma poi c'hanno facce straordinarie. Sì, cioè, nel senso, facce vissute. Sì, c'hanno antropologicamente parlando, esatto, c'è quel background, c'è, esatto, quel DNA dell'Italia, tutti questi, ma parliamo di De Niro, di Al Pacino, esatto, Stallone, esatto, Martin, esatto, Scorsese. Ma più le facce che... Ma poi gli abruzzesi pure, di verità, Dean Martin, bravo, ragazzi, sì, esatto. Dean Martin quasi nessuno sa, si chiama Dino Crocitti, cioè, quello, cioè, Frank Sinatra, madonna ragazzi, veramente... Sono orgoglioso di quello che abbiamo esportato. Assolutamente. Ma poi dice, c'è pure Al Capone, però che c'entra? La Caesar Salad è stata inventata da un italiano, un friulano, adesso non ricordo. Dubbi, sì. Non ho dubbi su questo, esatto, abbiamo inventato tutto, e intanto in questo momento storico forse ci stanno facendo dimenticare che abbiamo, giusto, inventato tutto. No, non ce lo siamo dimenticati noi, non lo sappiamo, ma ce lo stanno facendo dimenticare che siamo un popolo pieno di cultura, d'arte. Sappiamo l'arte della sopravvivenza, la conosciamo perfettamente. Oddio, ritiriamole fuori queste unghie, l'occhio della tigre, ritiriamolo fuori, perché veramente abbiamo tanto da raccontare, tanto, tanto, tanto. E questa è una storia bellissima che tu stai... Hai altre tappe in Italia della presentazione, sì, adesso, del film? Il 12 aprile saremo a Torino al Cinema Massimo, proprio al Museo del Cinema. Sì. Enorme, sì, io ce l'ho recitato con la prima ditta, bellissimo, grandissimo. E poi farò La Spezia, e poi saremo di nuovo in Campania, credo Napoli e Cosenza. Stiamo facendo delle serate evento, anche perché è molto andrà importante. Su Sky Art, almeno su questi canali. Guarda, sì, stiamo parlando prima con gli americani, perché, certo, Pierrette sta in America, quindi in questi giorni sta parlando con la PBS, con altre televisioni, perché... Digli che ci sono io a Pierrette, certo, che facesse il mio nome tranquillamente, sì, certo, in America, cioè, non... Se ti serve, io sono disponibile in questo, aprire delle porte, insomma. Va benissimo, lei lo sa, penso che... Lei lo sa, ma lo sa, sì. Ti chiama il signore. Il quindi. Signore, esatto. Senti, tu, è un'altra cosa che non sapevo, che insegni storia italiana in università in Pennsylvania. Sì, ho insegnato per diversi anni alla Robert Morris University, forse dal 2018 sarò però in Arizona, a Tucson. Beh... Come fai a non fare un passaggio a Tucson? Per forza. È naturale. Ti chiamerò per un western. Proprio. Esatto. Beh, per doppiare, io l'ultimo western doppiato è stato Django, per cui, però in italiano è quello. E poi so che fai vedere, poi c'è nei film italiani e americani per ispirarti. Cioè, questa è una trasmissione sul doppiaggio, quasi sempre sul doppiaggio di film americani in italiano. Com'è invece il doppiaggio, per esempio, dei nostri italiani all'estero? L'hai visto Benigno, questi doppiati? L'ho visto e ripeto, sordi, non perché ci sei, ma se la migliore scuola del mondo è qua. Sì, quello sono sicuro. Io perciò preferisco spesso far vedere i film italiani in italiano, anche, certo, senza sottotitoli. Ad esempio, un film come Fantozzi, tu ti puoi permettere di farlo vedere senza sì, sottotitoli. Sì, è vero, che le immagini raccontano molto di più. Ed è un modo per capire, sai, il mio corso si basa molto più sugli attori e non sugli autori, quindi partiamo con quello straordinario attore che era Nino Manfredi, sì. Quindi io faccio vedere Pane e Cioccolata, Caffè Express, Per Grazia Ricevuta, e poi vado un po' più sui caratteri, perché io devo dire che Nino Manfredi andava per sottrazione, invece tutti quanti gli altri andavano per addizione. Allora conoscere Manfredi è un primo momento per poi capire tutti gli altri. Vedi, noi dovremmo farlo in Italia, nelle università italiane. Se tu parli con un ragazzo che va all'università qui e dici Manfredi, lui dice con chi gioca, capito? Sì. Il rischio è questo, e invece dobbiamo sottolinearla, urlarla la nostra cultura. Il problema è che le idee nuove, le idee giovani, che sono quelle antiche, non le accettano, non le accettano, perché sono già chiusi, sono dei circuiti chiusi. Per questo andare in America mi è servito per fare poi di più in Italia. Ti sembra strano, ma soffriamo di esterofilia. È l'ego che porta. Io sbagliai una volta quando mi chiamarono per fare due pose un pizzettaro nel film, la fiction degli avvocati, che sono amico di Ted Kotcheff, Law and Order. Ted Kotcheff, regista di Rambo, eccetera. Siamo diventati amici tramite il mio amico musicista Mainetti, che aveva fatto le musiche del suo film. Poi ho detto, dai, rimani qui, ti faccio fare un paio di cose, e ti fanno fare l'italiano. Non siamo come noi che fanno fare l'italiano all'americano. Ti fanno fare l'italo-americano e devo portare i pizzi all'avvocato. Io ho detto, no, ma non lo faccio, ma te pare? No, invece lo dovevo fare. Ti lo devi fare, perché lo dovevo fare, lo dovevo fare e dire, io lavoro negli Stati Uniti, perché l'eco che riporta di qua una storia del genere sarebbe stato. Nessuno poi gli diceva che portava le pizze. Cioè. Comunque, ho fatto un film in America. Nel 78% dei film americani in cui c'è un italiano, si parla o di cibo, certo, o di mafia, certo. Quindi a te il pizzato, o ti facevano fare il mafioso, esatto, cioè. È strano poi, perché poi i film che esportiamo sono Gomorra, Romanzo Criminale e Suburra, perché devi parlare d'altro, scusa, esatto. Va bene, amico, okay, mio, grazie, grazie. In bocca al lupo, grazie per questa bella avventura passata insieme, grazie davvero. Grazie. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, Pino Insegna ai microfoni, come sempre, di Radio 24. E a proposito di voci, dopo questa bellissima avventura attraverso l'oceano dell'Andrea Dori, affascinante, attraverso le voci delle sopravvissute, soprattutto di Luca Guardabascio, che l'ha raccontata in questo docufiction che diventerà un film internazionale, è stato veramente emozionante per quanto mi riguarda, e spero che sia stato lo stesso per voi. Al mio fianco adesso io farò parlare, soltanto farla parlare un attimo, e voi dovete indovinare chi è che sta parlando, se io o l'ospite di turno. Prego, puoi dire delle cose. Cantas y a sole a cielo, no, con papà. Tu canto. No, no. Tu vos desgrana il cereal del día. No. Hablan los pinos con si lengua verde. Chiamate un esorcista. Trinan todas las aves dell'invierno. No, vabbè. Signori, Maria Rosario Maggio. Che poi chiamare Maria Rosario Omaggio e la invitarla a teatro non è mai bello, perché insomma invitarle è succede omaggio. Qualche volta che magari quella del botteghino è distratta, io dico omaggio per dire appunto il nome della busta dell'invito, e mi fa: stasera sono tutti omaggio, signora. Poi mi guarda e mi fa: oh, mi scusi, mi scusi. È vero, c'è un cognome riduzione, te dovresti chiamare. Però tu non hai apprezzato il mio regalo. No, è stato fantastico questa cosa di Garcia Lorca, di... di cosa? Di come fai a dimenticare i versi di... No? Sulla voce. Beh, di Pablo Neruda. Dai, ma lo sapevo. Però ma bello. Lo vuoi in spagnolo o in italiano? Guarda, oggi, e anche questo me lo riascolto volentieri perché mi piaceva già sentire la tua voce, però volevo contestualizzarlo. Oggi è la festa, non si può sentire, ma è nato Baudelaire e i suoi Fiori del Male. Io avevo trovato... con gli autori, con Alessia, con Mauro, con Rachele, queste due poesie tratte da... una è La bellezza, l'altro Tristezze della luna. Cominciamo dalla bellezza, perché sì, dopo però adesso parliamo di temi, che siamo da recitare. Diciamo che basta aver vinto perdendo. Eccolo là, facciamo una trasmissione internazionale per poi scendere. L'altra voce che state sentendo è della signora Galeazzi. Esatto. Che è una grandissima amica di Maria Rosaria, ma una grandissima cantante lirica, no? Cantante folk. Folk, perdonami, folk, perché non ti conoscevo, perché tu sai, insomma. Ma a modo suo è classica anche la musica folk. La musica folk è straordinaria, sono un grandissimo esperto di musica. Non so cantare bene, l'ho dimostrato a tale quale show, ma sono veramente esperto di musica, anche perché il trucco non funzionava. Stavo 7 ore sotto il trucco per assomigliare a Pino Insegno, questo era. Però dovevano far fare Marilyn, secondo me. Anche lì era perfetto, è la morte mia, cioè le gambe, il viso. La morte tua in tutti i sensi. Intanto non lo fa Barry White, però. Tanto mi sembra. Senti che voce. Una volta alla radio. Poi sanato mi vera. Una volta alla radio, e mi piacerebbe recuperarla. Feci a Gran Varietà con Carlo Napolitani, che insegna canto lirico a Santa Cecilia. Tu eri un basso d'eccezione. Allora, di spalle, perché è la famosa sala A di Via Asiago, eccetera, eccetera, certo. Quindi di spalle, lui al pianoforte, io di spalle, avevo capelli lunghissimi, tra l'altro, abbiamo fatto la ci darem la mano, la mi dirai di sì. Te si può sentire. E lui invece faceva zirlinetta. Quando ci siamo girati, il pubblico ha cominciato a ridere. Però non poteva. Cioè, il pubblico a casa, siccome era a radio e non c'era ancora lo streaming, non sapeva perché tutti ridevano. Mozart, non c'è niente da ridere, perché un uomo c'ha la donna e la donna poi quando l'uomo. Montesano ha spiegato e dice: no, guarda, che è Maria Rosaria che sta facendo la voce. No, tu hai sempre avuto questa voce, tu hai fatto uè quando sei uscita, oppure ebbene sì, eri così. No, se voglio posso anche fare già un film, mi hanno fatto doppiare con la voce così, che è stato Culo e Camicia, perché diceva De Laurentiis, quello con Pozzetto, era quello con Pozzetto, sì, perché ti sei vestita così, la famosa, certo. La famosa scena attaccata alle bretelle alla mia macchina. Perché le cose comiche dovevano essere con la voce più acuta. Sì, ma è difficile per te, tu l'hai persa qualche ottava, se n'è andata, dai. No, c'è questa voce pazzesca. In questo periodo devo dirti la verità che un po' è colpa anche dell'allergia primaverile. Sì, però diamo la colpa all'allergia, la conosco da 30 anni. Però non c'ha mai avuto una voce leggera. No, ma è bella però. Beh, certo che bella. Ce l'hai solo tu così, in effetti, da donna così è... Beh, c'era Mantak Chia, questo esperto di Tao, che diceva che così dovrebbe essere. Cioè, una donna realizzata deve avere la voce bassa come Tina Turner, anche un uomo realizzato come Michael Jackson, una voce molto acuta. Ah, dovrebbe essere il contrario, sì, questo non l'ho mai. Perché tutti abbiamo una parte femminile e maschile, certo. Quindi, secondo il Tao, modificare la voce significa vuol dire crescere spiritualmente, energeticamente, insomma. Io conosco più il Tao dell'amore, lo lessi quando ero giovane. È sempre di Mantak Chia. Sì, proprio per problemi, perché insomma ero piccolo e non sapevo come fare l'amore, lo dico proprio apertamente ai microfoni. E invece il Tao mi ha raccontato questa cosa. Una persona mi ha detto: prendi 20 gocce del calmante oppure te leggi il Tao dell'amore. Io l'ho letto, ero giovanissimo davvero, e ho capito come trattenere il proprio seme, pensa, dal Tao. Ho imparato a fare l'amore, sì, ad aspettare lei. Esatto, a godere del piacere dell'altro. Con carissia sì, palabras suaves. Mi sembra parlare con un torero, Santa Miseria. Capisci che... è possibile, ti mette un'ansia. Però, Maria Rosaria, voglio raccontarti un po', no? Stiamo già finendo il primo blocco. Non dico il nome, la data di nascita non la dico. Dico soltanto che nasce a Roma l'11 gennaio. Esatto. Ma tanto perché e l'11 gennaio sono nati tanti. Chi è nato l'11 gennaio? Vabbè, Massimo Lopez, Matteo Renzi, eccetera. Pensavo nel 17-18. Io saluto Massimo. No, Nicoletta Orsomando. Nicoletta di Signorina, buonasera, certo, che carina. Diciamo che quelli dell'11 gennaio non te li levi mai di torno, durano proprio fino a... Facciamo gli auguri anche a Massimo, è un momento difficile. Infatti l'ho detto per questo. Esatto, ma lui... Massimo, a presto! Ma sì, deve venire, per cui assolutamente. Sei un'attrice e sei una scrittrice italiana. Beh, italiana, ho pubblicato in 6 lingue. Cioè l'hanno tradotto. No, non italiano, però tu sei italiana. Io sono un'attrice italiana che però recita in questo periodo molto di più all'estero. Dopo il film Vauenza con Andrzej Wajda, dove ho interpretato la Fallaci, in Polonia. Adesso arrivo da 9 capítulos per allora, la grande fiction spagnola. Allora, ascoltiamolo un momento. Abbiamo un momento del film dove la nostra signora interpreta la Fallaci, vero? Allora c'è, e allora ascoltiamo. Sorpresa. Eccolo. Lui ha accettato un appartamento che gli è stato assegnato dalle autorità contro le quali sta lottando. Signora, ha 6 figli e non ha soldi. Sicuro di aver tradotto bene? Guarda che io registro. Ma che uomo è? È un uomo paradossale. Sono Oriana Fallaci. È una domenica pomeriggio in una danzica fredda, intrisa di neve ed angoscia. Un momento. Zanim zaczniemy, trzeba pewne sprawy uzgodnić. Dobbiamo chiarire un paio di cose. Questa intervista io ci guadagno o ci perdo? Senta, Valenza, se a far questa lei ci guadagna o ci perde, io non lo so, in quanto dipende da ciò che mi dirà. E le domande le faccio io. Incominciamo. Eccole, le domande le faccio io. E tu hai vinto anche un bellissimo premio a Venezia, al Pasinetti, per questa bellissima interpretazione. Sì, con grande emozione del meraviglioso Andrei Vajda, che mi disse che il suo primo premio, quando erano in piena dittatura, che era l'uomo di marmo, prima con Senisa Cenere e Diamanti, vinse il Pasinetti. Per miglior film. E dopo vinse tanti altri premi. E poi vinse tutto l'Oscar, eccetera. Sì. Non c'è più, tutto. Vero? Ci ha abbandonati. Vero? Ci ha abbandonati da poco. Da poco, è vero. Grande neanche Andrei, un anno. È vero. Tu hai avuto anche... Pensa che cosa curiosa. Le sincronicità. Lui è nato lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno di Gabriel García Márquez, del quale io ho interpretato Diatriba d'amore contro un uomo seduto. E... uno nato ad Aracataca in Colombia, l'altro invece nato in Polonia, però due uomini molto simili, due uomini importanti per la mia carriera, per la mia vita, una grande fortuna averli conosciuti. Ma anche per loro aver conosciuto te, sai tesoro? E anche c'è una cosa, una sorta di osmosi in questi casi, cioè uno non si incontra per caso. No. Infatti, poi devo dire che la W mi ha portato fortuna. Infatti adesso aspetto Wim Wenders, che ce n'è due in uno. Wim Wenders non è male, sì. Vedi, tu oggi sei testimone silente, mia signora Galeazzi. Io, ma sono qui, mi ascolto molto bene. Però lei verrà ospite, visto che mi ha permesso di conoscerti. Felice. Adesso ti ho come ospite silente e testimone. Ma dovrà portare la chitarra. Sei una cantante folk senza chitarra, amore mio, è come pistolero senza cinturone. Ci abbiamo pensato. Con lei facemmo in una Pasqua di anni fa... Devi dirlo dopo perché stiamo andando in pubblicità, amore. Aspettatemi. 144, 6144. A tra poco, Maria Rosaria. A tra poco, Pino. Senza, fammi i soldi e te per radio de notte. A tra poco, voi sanatemi. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... Sanatomi. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Che Voice Anatomy questa di oggi, voce di sopravvissuti, storia straordinaria dell'Andrea Doria, poi la voce per antonomasia, Maria Rosaria Omaggio. Beh, ragazzi, e te dopo mezzanotte? Sì, però, offriamoci una petizione. No, nel senso buono del termine ci offriamo. Certo, sì. Facciamo una trasmissione, le voci della notte. Solamente tu puoi imbarazzarlo un uomo con questa voce, secondo me. Una donna può essere affascinata da una voce bassa di un uomo. Sai che per me la voce è talmente... Allora, c'è una bellissima definizione, per esempio, degli indiani d'America. Che io adoro perché sono stato battezzato dai americani. Anch'io. Anch'io. Cosa. Interpretando Madre Terra. Feci una ritualità, feci un documentario per la televisione. Meraviglioso. E allora, sai come si chiama la voce per loro? Il vento dell'anima. Noi abbiamo un animone, mamma mia. È vero, il vento dell'anima. Il mio nome mi hanno dato i nativi è Iktomi, è colui che dava coraggio nei momenti di disperazione, dava un sorriso ai guerrieri. Io figlia di Madre Terra. Io, il buffone corto uguale, pure lì sono stato lì da loro, vabbè, ma questa è un'altra storia. Se vogliamo fare questo piccolo break che hai detto, sì, che è il compleanno di Baudelaire. Il compleanno di Baudelaire, so che non te l'ho detto prima, ma noi siamo abituati, gli attori veri non hanno bisogno di leggerla prima, come facciamo poi con, normalmente oggi non c'è un attore doppiatore di turno, ma c'è Maria Rosaria che è tutto, per cui attrice, doppiatrice, eccetera, e scrittrice. Sono bella. Aspetta, devi mettere la musica. Fermati. Eccolo. La bellezza, Baudelaire. Sono bella, o mortali, come un sogno di pietra e il mio seno, cui volta a volta ciascuno si è scontrato, è fatto per ispirare al poeta un amore eterno e muto come la materia. Troneggio nell'azzurro quale sfinge incompresa. Unisco un cuore di neve alla bianchezza dei cigni. Odio il movimento che scompone le linee e mai piango, mai rido. I poeti, di fronte alle mie grandi pose, che ho l'aria di imitare dai più fieri monumenti, consumeranno i giorni in studi severi perché, onde affascinare quei docili amanti, ho degli specchi puri che fanno più bella ogni cosa. I miei occhi, questi larghi occhi dalle luci eterne. Ma che bello! Che bella cosa! Vedi? Ho trovato veramente una voce che potrebbe prendere il mio posto tranquillamente. Mi sento in imbarazzo. Ma sai che mi piace tanto fare la radio? La radio è io... come un buon libro, è l'evocazione Ma per eccellenza. Ma io ero ragazzina, feci il mattiniere, che era una trasmissione di Mazzoletti. Sì, di Radio 1, sì. Io non avevo 17 anni, cioè avevo fatto il gatto briscolone con Baudo. Il gatto briscolone. Un milione e mezzo di copie di dischi sì, venduti. Sì, notte, sicuramente, è vero. Briscolone. C'è una canzone dell'81 invece che è la femminista. La femminista in realtà l'ho incisa nell'81, esatto. Però erano le canzoni in giacchetta, quelle di Armando Gil, di Donna Rumma, quelle del Tabarin, e le avevo fatte in una trasmissione che si chiamava Tutto Compreso, con Boldi, Teocoli, Ezio Greggio, veramente c'erano quasi tutti, Berlusconi. Dovresti solo dirmi eccetera. Con chi non hai lavorato, facciamo e prima. In realtà avevo scovato Edizioni Bideri, tutte queste canzoni e c'era anche il clarinetto, si ispirò al il piffero che era quella originale, no? Ma la femminista era bellissima perché diceva, no, fermi. Devo correre alla Dante per tenere la conferenza sui diritti della donna in rapporto con la scienza. Sembra un controcanto quando parli così. Devo scrivere l'articolo per rispondere a quel tale che attaccò le femministe, non so bene in che giornale. Ho sgridato mio marito e stasera lo percuoto, perché lui non vuol capire che anche noi vogliamo il voto. E gli ha detto, ma tu donna, tu dovrai si ricorda tutto, che lo tieni un certo voto che io riempio spesso. Va bene, no, vabbè, bello ricordare tutto così. Ma anche il piffero era meraviglioso. Non ci abbiamo tutto. Però la canzone, quella prima che mi hai detto che hai cantato 1,5 milioni di copie, come si intitola? Il gatto briscolone, il era gatto la sigla briscolone. di canzonissima. È lì che poi c'è stato il tuo c'era startup. C'era Franco Latini, con Franco cui Latini feci grande, una delle prime cose di doppiaggio. Sì, perché Franco, in realtà bravo. Stette male la Goggi e mi chiese di fare oh, mi è sembrato di vedere un gatto. E con quale voce la facevi? Quella voce... No! Era più acuta e tu ce l'avevi piccola. Era anche un po' aiutata, picciata, un po' aiutata, picciata, come picciata, si dice adesso. Un po' picciata. Ma sì, Franco Latini, poi la voce dei tanti attori della Disney, Paperino faceva. Franco era con Sanità. Due figlie, una non c'è faceva più. Faceva Gatto purtroppo. Silvestro. Silvestro! Bisogna chiamare un esorcista davvero con Maria Rosaria. Ma Franco, due figlie doppiatrici, una non c'è più, purtroppo ci ha abbandonato troppo presto. Un'altra bravissima doppiatrice che avremo presto dei microfoni di voi sanati. Ma hai fatto tantissime cose. Adesso stiamo giocando a ping pong con la tua carriera, ma è così. Tu hai cominciato poi il tuo debutto nel 76 con Rapina a mano armata. No, Roma a mano armata. Rapina, ho detto io. Ecco, a fianco di Thomas Milian. Com'era Thomas Milian, visto che ci ha salutato anche lui da poco? Un cubano che sembrava più romano di me, di te messi insieme. Per grazie fortuna, a Ferruccio Amendola anche. Per fortuna, quando ha pubblicato il libro della sua carriera e ha preso il premio al Festival di Roma 2 anni fa, ci siamo rincontrati e ho questa foto bellissima perché io mi hanno fatto sedere dietro, mm-hmm. Lui è arrivato, si è seduto, io gli ho messo le mani sulle spalle, poi si è girato, mi ha guardato e mi ha fatto: no, tu uguale, io vecchio, noi ci siamo abbracciati. Sì, io l'ho incontrato a Domenica Inn quando... Ma io mi chiedo, ma per quale motivo si mettono sempre le ragazzine di 17, 18 anni, 20 anni vicino agli uomini di 40, 50 al cinema, in televisione? Per farvi lo sconto. Sì, quello sì, oppure perché hanno fatto lo sconto a qualcuno per farle lavorare, cioè lasciamo stare. No, dici, non è così, dici. No, nel mio caso non fu così. No, nel tuo, io non pensavo che parlavi di te, no, parlavi di adesso, della fiction di adesso, che non si può sentire. Questo, stavo parlando di questo. C'era io. Gigi Magni. Tu mi vedi, tu mi stai a parlare di queste persone. Infatti, devo dire, tu hai lavorato con gente con l'Empals, cioè c'era l'Empals, gente, quando tu facevi i ventenni e quelli cinquantenni. C'erano l'Empals veramente, tutti. Però, a giudicare da quello che ho visto adesso, non lo versavano, cioè versavano un giorno di lavoro quello per 40. Quello sì, ma per modo di dire che erano tutti professionisti, grandi professionisti. Sì. Luigi Magni, vedendo alcune fiction, diciamo così, oggi, diceva, io non li capisco, ma tu li capisci, ma sa che ti dico. Ma io cambio canale, perché tanto pare che li disturbiamo, se parlano tra di loro. Esatto, quello che diciamo sempre, noi qui parliamo di voce e facciamo anche dei tutorial sulla voce. Tu non puoi sentire gente che non finisce un concetto perché non sanno timbrare fino alla fine, non sanno tenere un'intenzione fino alla fine. No, non finiscono la parola. Certo, parlo, dobbiamo andare, ti ho detto mille, che così no. Oppure parlano... Sì. Dobbiamo no, se, sente, scusami tu tanto. Dici, cazzo, cioè, se io, non te vedete come sente, scusami volta. Tanto, io vorrei sapere verso che minuto finisce questo blocco. Sì, ma magari parlassero così. Adesso non voglio, perché facendo poi questo mestiere sembra che noi denigriamo, certo, ci sono tanti attori e tante attrici sicuramente brave, però santo Dio, adesso tu assomigli a un idraulico, fai l'idraulico, assomigli a un assassino, fai l'assassino, assomigli a quello, fai quello, non c'è un'interpretazione di ruolo, non c'è uno studio sulla parola, non c'è uno studio sulla voce, non c'è uno studio sull'interpretazione. Io non ho mai visto la primaria di un ospedale di 28 anni. No, è difficile. Deve neanche difficile. Un magistrato. Difficile, può essere raccomandato come pare, ma il primario non lo fai. No, puoi fare. Non è possibile. E no? Non con quei dette, va bene? Esattamente. No, le dette sì, perché ci sono delle primarie bellissime donne, certo. Meravigliose. Come no, sì. Quello assolutamente sì. Io tantissime. Non voglio massificare, perché insomma generalizzare fa sempre male, poi che ai grandi professionisti che esistono, ce l'abbiamo, per questo mi sai che la mia amica Lucilla Galeazzi, per esempio, lavora molto più all'estero che qui. Qui esatto, abbiamo come fatto te, come te adesso mi stavi dicendo che lavori tantissimo. Ho sempre lavorato tanto fuori, però è che mi piace molto recitare nella mia lingua. E perché... nella nostra nazione. Eh sì, e perché... tu invece, Lucilla, dove stai di sì? Io canto in italiano, canto in dialetto, canto da tutte quante le parti, molto le musiche in Francia. Sono tue? No, sono una, la pezzi musica classi... di tradizione, tradizione, quella di tradizione orale. Sì, io sono nata in Umbria, quindi parto Sendi dalla mia dalla... Cino? Sono de Terni, no? Sei de Terni? E certo. Dintorni, come si dice. Sono più spoledino, conosco meglio lo spoledino. No? Lo so. Sì, no? È un po' spesso. Diverso dal Ternano. Sì, dal Ternano sì, è un po' Faccio più duro il Ternano. Com'è un po'? Per dite, isso era tanto bravo. Però gli mancava la grazia, era buono, però... Non era come Alberto Lupo, quando che essa lo incontra, che gli dà quello sguardo che mi faceva casca per terra. Isso è buono, però è un po' materiale. Però senti un che po' bravo, materiale. Senti com'è musicale, però un tutto questo. Così si tramanda una lingua, perché esatto. Quella di lingua si tratta, il è nostro certo. Dialetto. Però lei, certo. fa anche canto barocco. Cioè, una volta ci siamo molto divertite al Festival di Avignone, a fare il canto in ottava rima, e quindi recitando Paolo e Francesca, cantato e interpretato come storia. Gli antichi cantori. Gli antichi cantori, la tradizione d'ottava rima è la, certo, Toscana, la Toscana, parte dell'Umbria, certo. Amatrice per il Lazio, si arriva fino ai Colli Romani, la tradizione d'ottava rima. Cioè, io essendo qui un po' parte toscana e parte enopea, allora... Sei un po' tutto tu, quanta miseria. Però bello, questo è affascinante, questo bisogna tramandare. Esattamente, questo. Capito? Che faccio con i miei allievi e poi e quello dovrebbero davanti fare anche al a scuola. Pubblico. Io quello che urlo sempre a questi microfoni, dovrebbero insegnare intanto l'italiano a scuola, ma l'italiano non come la lingua italiana, certo. Parlare italiano. Certo. E poi salvaguardare il proprio dialetto, sicuramente. Beh, e poi l'impostazione della voce, il però coaching. Scusa, adesso ti faccio una cosa, lo picco. Non italiano. Italiano, certo. Cominciamo col dire. Sì, non GL, certo. Ecco, per favore. Va bene. Salutate Mariano Serromaggio. Salutate Mariano Serromaggio. Finisce qui l'appuntamento. L'appuntamento. Un po' prima, ma perché abbiamo degli altri ospiti. Pazienza, insomma, andremo avanti in qualche modo. Va bene. Resta invece con noi, perché abbiamo ancora due blocchi. A tra poco, poi Sanatomi. Ovviamente anche con Lucilla Galeazzi. Certo. E poi è un cognome. Galeazzi, non c'entra niente nella tua vita? Galeazzi, ma... il grande giornalista? Allora... La povera Marchesini. Dopo me lo dici, perché lui dobbiamo andare. Ma ha satanato 5 anni dalla vita mia, perché ogni volta che mi presentavo, signora lei, la signora Galeazzi, ma che è la moglie di Giampiero? No, non so, moglie di Giampiero, anche se è un uomo straordinario. A tra poco! Boys Anatomy. Eccoci di ritorno con la nostra amica Maria Rosario Maggi, anche Lucilla Galeazzi, che non è la moglie di Galeazzi, ma cantante folk invece bravissima, ma sarà ospita a Boys Anatomy quanto prima, per cui adesso certo. Dobbiamo andare avanti alla protagonista in questo momento, la omaggio. Naturalmente. La omaggio, perché costa poco, per cui poi è un omaggio. Esatto, per cui chi se ne frega. Ma sarà per questo che non dove il tuo ping pong artistico, dove preferisci stare? Beh, io personalmente, come fanno questa domanda, dico sempre il teatro tutta la vita. Tu? Guarda, devo essere sincera. Io amo molto il cinema perché diciamo che crescendo sono sempre andata più all'essenziale. E l'idea che con un solo sguardo. In sottrazione pure sì, tu, in sottrazione. E l'idea che con un solo sguardo puoi raccontare un sentimento. È un'emozione forte, potente, ancora di più quando devi magari appunto interpretare un personaggio realmente esistito ed è difficilissimo perché sì, quando hai fatto la Fallaci non era facile, non devi fare lì. La parodia no, cioè, no. Devi essere veramente lei, quindi togliere, mettere con difficoltà, però certo poi non ho mai resistito al teatro. E anche, allora anche mentre giravo Edera, per dire, sì. La prima lunghissima fiction è stata la prima, quella che sì, però io ecco per riposarmi mi sono fatta Spoleto, Todi, cioè, per riposarti quella è fatica mia. Ce la sentiamo la Fallaci a teatro, perché l'hai portata anche in teatro? Sì, le parole di Oriana, solo con le sue parole. Bello. Stanotte ho saputo che c'eri, ma noi ce l'abbiamo, una goccia di vita scappata dal nulla. Dio mio, che fai stanotte dopo le due? Vai, manda. Buonasera. Grazie dell'invito, anche se ho molto esitato a venire. Io sono una persona molto riservata, chiusa in me stessa. Ho una vera e propria ossessione della privacy e molti di voi sapranno che detesto dare interviste. Primo perché il linguaggio parlato è per sua natura sciatto, impreciso, induce a giudizi avventati, non dà tempo di riflettere e il linguaggio scritto, al contrario, fa scegliere le parole, permette di riflettere. E poi ogni persona libera, ogni giornalista libero, dovrebbe essere capace di riconoscere la verità ovunque essa sia. E se non lo fa, è nell'ordine un imbecille, un disonesto, un fanatico. E il fanatismo è il primo nemico della libertà di pensiero. Quindi mi racconterò con le parole che ho scritto e vi parlerò in stile minigonna, ovvero in modo abbastanza lungo da coprire l'argomento e abbastanza breve da renderlo interessante. Essere donna. Bello, bello. Io ero affascinato, dico tienilo, quanto dura, vai, lascia. Però ci abbiamo te qui dal vivo. Che devo dirti ti ricordi che la musica era dal vivo, sì, suonata da una grandissima concertista che anche lei, voglio dire, sta più a New York che a Roma, anche se è ternana anche lei. Io ho una passione per l'Umbria. Amici, ma no, io ho una passione per l'Umbria che finisce mai. Anch'io. Il cuore dell'Italia fa da nulla togliere, però Cristiana Pecoraro, che organizza anche il Narnia Festival, dove non solo le voci vengono le voci liriche, l'International Vocal Art, che è una organizzazione a Los Angeles e a New York che seleziona i cantanti lirici più meritevoli nel mondo, certo. Quindi cinesi, coreani, norvegesi, italiani eccetera, roba di tutto. Nostra. Ovviamente gli italiani hanno un vantaggio, perché parlando bene la lingua la lirica italiana. Io lo scorso anno, avendo curato il tutoraggio da tutor e la regia delle nozze di Figaro, della messa in scena dopo tutto il corso lì all'estero a Narni, sì, con appunto con questi americani, e c'era per esempio Caleb, questo texano, che nel recitativo doveva dire io già la veggio laggiù. Già la veggio laggiù. Allora io li guardavo e facevo look my mouth, guardami la bocca. Allora, io, no, a ring, già, square, fa la quadrata, la, square, ve, street. A little like a banana, street, Joe, a ring, la, square, bello, è proprio coaching, allora, vero? I do, okay. I do, Maria, belle me, I do. Giù. finita, ha chiuso. Non c'è stato verso. No, non è che mi sono sdraiata per terra in platea. Ha vinto lui. E gli ho detto, Caleb, salirà la musica. Ringraziando il cielo. Senti, ma abbiamo trovato una canzoncina che l'ha portata al grande successo? Hai la coda più lunga di un pitone. Fammi sentire la tua voce, quanti anni avevi? Gatto, ma sei quasi un leone. 16 e mezzo. In televisione, sei un gran campione. Prisco, prisco, lombe. Bri, bri, bri, prisco, prisco, lombe. Però me lo ricordo. E qual era Antoniano? Che anno era? Questo era 73-74. Già io già c'avevo un inizio di prostatite, per cui ero già grande pure io. Me la ricordo, me la ricordo. E prima si vendevano i dischi, ne parlo qui ogni tanto con i grandi del passato, e c'erano proprio milioni di dischi, però si sa perché sti soldi. Ma anche i libri? Vogliamo parlare di libri? Io voglio parlare dei tuoi libri. Leggete. Ascoltate perché la radio e leggete. Chi legge è un uomo libero. Sì. Ma non lo dico così, non per... vero. Anche perché non ho nessun libro in questo momento in vendita, quindi lo dico perché sono un acquirente. Io li voglio leggere. E una lettrice. Di libri. Cioè, tu hai scritto, allora, il linguaggio dei gioielli, il significato nascosto e ritrovato dell'eterna arte. Questo è dell'ornamento dalla alla Z. È alla Z. Che ti ha valso dalla Z, che ti ha valso il premio Alfredo Cattabiani, perché c'è un premio pure. È importante. No, beh, io sono un'appassionata studiosa di antropologia. Anzi, approfitto per ricordare il mio grande maestro, il mio mentore, che era il professore Alfonso Maria Di Nola, grandissimo antropologo. Io vivo nell'antropologia perché mia moglie è antropologa, a parte essere un'attrice. Per questo l'ho detto. Mi ha insegnato il sincretismo, Chiede Martino, insomma, un po' di cose ho imparato. Forse è stato il legame più... profondo di amicizia con Lucilla, perché appunto lei tradizioni, io tradizioni, antropologia, ci siamo incontrate recitando Alfonso è stato per me un maestro grandissimo. Ci siamo incontrate recitando nella Passio et Resurrexio di Rendina, che è stata questa grande concerto, questa messa in Mondovisione per il Giubileo del 2000, sì. E lei era la voce del giubilate, io ero la voce narrante insieme a Mariano Rigillo, e così è stata un'affinità elettiva importante. Il libro dei gioielli, e Lucilla si ricorda che praticamente a casa mia si cammina, c'erano tutti i blocchi per terra ovunque eccetera, è un'enciclopedia. La storia dell'ornamento. Cioè come bello. Nascono anello, bracciale, catena, collana, e per quale motivo sono stati messi, per quale motivo sono, esistevano tutti i gioielli questi. Sono nati per gli uomini. Solo un ornamento è nato per la donna, che è l'orologio da polso. No, ci sarà pure un motivo per cui vi abbiamo lasciato solo quello. Esatto, perché non vedevate l'ora di cacciarci via. E ho scoperto anch'io, grazie a mia moglie, ho scoperto che io faccio sempre, perché l'uomo ha governato la famiglia da sempre. Cioè, no, tesoro, no. È matriarcale la famiglia, esatto, da sempre. Allora finisco con i parolacci, quando non so più che dire. Quando è così, quando c'è la cultura che ti schiaccia. Bisogna saper perdere. No, me ne vado. No, non sono più argomenti. Potresti fare come a Roma, vincere perdendo. Dai. Viaggio nell'incredibile, che non è quello che è successo a voi. Saggio con il quale hai vinto anche il premio letterario Fregene. E me lo diede, mi consegnò il premio l'onorevole Andreotti. E io, un personaggino ebbi l'ingenuità di dire: sono molto onorata di ricevere il premio dalle sue mani. Peccato che però lei non ha letto il libro. Questo non è vero e glielo dimostrerò. Intanto cito che nel capitolo 7 lei parla di Cicerone e saprà che io sono un vero esperto di Cicerone, eccetera. Non dovevo. Però mi mandò una lettera delle tante che lui scriveva alle 5 del mattino, in cui analizzava il mio libro come presidente della giuria, e c'era tutta la valutazione, eccetera, eccetera. Era e vedevo serio. Che era serio, che lo aveva letto. L'energia trasparente. potente. Curarsi con i cristalli, pietre preziose, metalli tradotto in inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e con 17esima giapponese. Ristampa giapponese. Sì, capisco. Per cui è stata chiesta una edizione con aggiornamento. Ti è stata richiesta. Ma capisco anche nel film di Vaida, quando ho visto il manifesto, capisco dai tre blocchetti che quello è Maria Rosaria Omaggio, perché se no. Ah, sei blocchetti scritti con tre, certo, blocchetti di ideogrammi. L'ideogramma, cioè. Poi c'era una volta, c'è sempre e ci sarà ancora per la Corbaccio Longanè, bello. Anche qui un altro premio, il Chiantino del 99. Da dove è nata questa passione? La cosa bella dei premi letterari, sai qual è? Che sono in denaro. Sì. Sì, a differenza. Dai, scriva, dai. Basta recitare. A differenza di quelli. Esatto, quelli nostri che sono. Che mia mamma mi diceva un'altra cosa da spolverare. Dico, mamma, ma ho vinto la maschera d'argento. Mamma, ho preso la targa cromo di Grolle d'Oro. Vabbè, ma insomma, tanto. Mettiamo lassù. Come diciamo Nicelli, un pupazzetto. Esatto. Andiamo a ritirare il pupazzetto stasera. No, però diciamo certi sono belli, gratificano molto. Gratificano molto, diciamo che non hanno magari il peso che meriterebbero di avere. Cioè, sì, certe volte negli altri stati, se vinci un César, o per non parlare dell'Oscar, il Globo, eccetera. No, cioè ti cambia la carriera, cambia la vita. Ti cambia anche di numero di zeri. Cambia, né da vita in giù né dalla vita in su. No, quei rischi che magari per un anno non lavori, e come diceva esatto. Gigi Proietti un anno che fummo premiati insieme, dice... Oh, se non te riveli tutti gli anni, mica lavori, eh? Esatto. Te devi rivelare. Te devi rivelare, sei in attore in rivelazione oppure la carriera. A tra poco, un ultimo momento, insieme a Maria Rosaria e ovviamente anche a Lucilla. Grazie. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presento... Sanatomi. Eccoci di ritorno, ultimo momento insieme. Oggi non parliamo di sport, non parliamo di niente, parliamo veramente di voce. Oggi è una puntata veramente... Perché non osi parlare di sport? No, voi. No, non ti voglio. No, andiamo in nazionale. Ma sai che sport pratico? Guarda, era la domanda che voglio farti e che è scritta, io dico, degli autori straordinari, che io non lo sapevo, ti conosco da tanto, ma questo voglio leggerla. Allora, sei davvero una donna instancabile e appassionata della vita. E questo è scritto, ma io lo so che è vero. E scopro adesso che sei istruttore della EWA, European Wushu Academy. European Wushu Academy. Wushu Academy. E Yong Nian Tikuane. Tikuane? No, Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Ecco. Perché noi abbiamo fatto di a lei? Ho perso un'altra occasione per farmi gli affari miei. E fa lo sborone su una cosa che poi... Sì, ho capito, tu leggi qui, Luci, tu capisci. Tai Chi Chuan. T-A-I-J-I-Q-U-A-N-E, per me Tai Chi Chuan. Ho pensato al Messico, io, Tijuana. No, invece è cinese. Allenatore arti marziali Wushu del suprema. CSI, Centro Sportivo, mica è finito, Centro Sportivo Italiano. Pratichi regolarmente al 90 Qigong. Qigong. C'ha ragione, Qigong. E Qiguan, pugno, e Chai Nian, spada. E Jian, spada. E c'è Shang. E Shen. Ventaglio. Ah, quelli film di Zhang Zhimu, che ci stanno quelli a foresta di pugnai volanti con i pugni. Ah, sì, esatto. In tutti i film, questi anche di supereroi, direi Doctor Strange, c'è questa che combatte con i ventagli. Il mio maestro Liron May è una campionessa del mondo nelle cinque arti. Che sono queste pratico. Le cinque arti: ventaglio, spada, pugno. Sì, no, poi ci. Tu sei uno degli Avengers, Maria Rosario Maggia, sei The Voice, chi sei? La sesta dei Avengers, sta Hulk, sta Capitano America, Iron Man, Maria Rosario Maggio. Il Tai Chi è una meditazione in movimento. Eppure pensa che se si facesse un Kill Bill nostrano in Italia, nessuno penserebbe di scritturarmi. Sì, perché a me mi farebbe... no, ma io pure se fossi un film sull'arte marziale non ti chiama... La signora elegante, esatto. Borghese, che palle. Esatto, si può dire. No, io infatti lo urlo a questi microfoni, visto che abbiamo centinaia di migliaia di ascoltatori. Maria Rosario Maggio è la risposta italiana a Bruce Lee. Dai, santa miseria. Ma io ho bisogno di una commedia. Ma tu meni? Io ho bisogno... Ma che vuoi, una commedia o vuoi menare? Che vuoi fare? Vuoi fare una commedia dove meni? Anche, perché no? Ma io tiro calci bene, diciamo. Tu i calci dici... Li tiro bene. Abbastanza bene. Per cui Wushu... Sì. Peccato che non si vede, se no ti... Ma tu sei anche l'istruttore, per cui, no? Sei Wushu. Sono l'istruttore... Wushu è allenatore... Tutti questi cinque arti sono il Wushu che raccoglie. No, allora no. Spiegami, spiegaci. Wushu letteralmente significa arte marziale. Ah, ok. E invece Kung Fu era una parola più cinematografica, che vuol dire lavoro pesante. Ah. Dentro il Wushu ci sono varie arti. Ah, okay. Un'arte di base che è quella più lenta, ma ci sono vari stili del Tai Chi. Certo. Quindi c'è per esempio lo stile Yang, che è il più diffuso, che apparentemente è una meditazione in movimento, quindi molto lento. Una danza. Quindi sì, sembra una danza. In realtà poi è quasi più difficile fare questi movimenti lenti, anche tirare un calcio, no? Signori, non sapete, ma questa non è televisione, ma sta tirando sui piedi, muove le braccia. Sembra la faccia incazzata. In qualche modo, no? Poi c'è lo stile Chen, per esempio, che è molto più dinamico, è molto più veloce. Il Qigong invece... Sì, il Qigong, sì, è vero, Lucilla, il Qigong è quello Qigong, più diffuso. Qigong te lascia un po' d'acidità, però. È proprio la ginnastica della salute. È quella che cura non soltanto i muscoli, ma anche gli organi interni. Ma come ti è venuto in mente? Tanto è vero che l'aerobica, per dirti, l'aerobica o il pilates, sono tutti i figli. Diramazioni. Ma quando ti è saltata in mente questa cosa? Hai fatto film in Cina, in Giappone? Sì. No, in realtà io avevo fatto un po' di yoga, ma stavo in Francia, a Parigi, a girare un film con Jean-Claude Lubzinski, che è un regista che lavora con Peter Brook, che ha curato tutte le parti. Esatto. E Peter stava proprio provando il Mahabharata e la Carmen, provava due spettacoli. I due attori che lavoravano con me erano... uno alle Martra, uno era nella Carmen e l'altro era invece nel Mahabharata con il nostro Vittorio Mezzogiorno. E allora, finito di girare, così andavamo alle Théâtre du Bouffe du Nord, così per le prove eccetera, e iniziai a fare degli esercizi che in quel momento ai miei occhi erano gli esercizi di Peter Brook, quindi per un attore oro vero. Peter è una persona, un altro degli uomini meravigliosi, veramente delle persone pazzesche che mi hanno veramente dato un senso, perché un senso non ce l'ha, esatto. E quindi e poi da lì ho scoperto il Tai Chi, iniziai con Marcello Curti, lo feci anche in televisione, che era un allievo di Grant Muradov, arrivò in Italia ospite di Mino D'Amato, grande, la giovanissima di Ron May, che con doppia lancia praticamente si scatenò nello studio. E ho cominciato a praticare. Insomma, io vi avverto, se incontrate di notte Maria Rosa Romaggio, prima di saltargli addosso, fargli qualsiasi cosa, fatela parlare. Se lei risponde che voi è Maria Rosaria, non la toccate, perché non solo non ve dà la borsetta, ma ve dà pure un sacco di botte. Per cui attenzione, signori uomini. Passano un guaio. Com'è la tua vita? Fengiao o Tengiao? Sì, non lo so. Calcio di punta o calcio di tacco? Esatto, Tengiao o Fengiao? Esatto. Se tu mai o Fengiao, sembra portoghese. Senti, la tua vita privata come scorre? Non per farmi gli affari tuoi, non faccio mai queste domande, però io è incredibile, ma sono single. Mi sono separata e questi microfoni possono essere utilizzati per fini personali, se vuoi. Sì. Tu fai per difesa personale, sappiate. Lo so, dopo quello che hai detto, amore mio, sarà un po' più difficile. Ancora più difficile. Capirai, anche perché si non spaventano, te posso... perché qui diventa che tu te sai difendere. Ma non è vero, perché io poi cucino bene. Io cucino bene, però c'ha la padella. È una cuoca straordinaria, sì, ma lei con la padella... io lo dico a tutti coloro sì, che ma fossero, si difende però... come se fosse il ventaglio la padella. Che no, la spada, il mattarello, questa fa diventare un'arma qualsiasi cosa. Quando fa le feste a casa sua ho capito, adesso invitami e penso a dire. Allora chiudiamo questa puntata con questa poesia sulla voce di Pablo Neruda, che io ti ho portato come regalo, e chiudiamo con e quella e vi saluto alla prossima settimana, mettiamo magari una musica leggera. Eccola qui. Cantas y a sol y a cielo con tu canto, tu voz desgrana el cereal del día, hablan los pinos con su lengua verde, trinan todas las aves del invierno. El mar llena sus sótanos de pasos, de campanas, cadenas y gémidos. Tintinean metales y utensilios, suenan las ruedas de la caravana. Pero solo tu voz escucho y supe tu vos con vuelo y precisión de flecha. Baja tu vos con gravedad de lluvia. Tu vos esparce altísimas espadas. Vuelve tu vos cargada de violetas. Y luego me acompaña por el cielo. Voglio lasciare un po' di pianoforte insieme alla tua voce, mi sembrava giusto così. Bello, questa è stata veramente una delle puntate, dopo quasi 80 puntate in questi due anni straordinari, dove la voce è veramente protagonista. Il vento dell'anima, il come vento dicono gli indiani. Esatto. Questa non te la scordi più. No, no, i nativi poi non si scorderanno mai. Lucilla, da te voglio la promessa che vieni con la chitarra, attraversiamo il mondo folk, la sì. storia e la voce. Non capisco che succede. No, non te porta lei, per l'amor di Dio, no, non te la porta no, più no, dietro, no, non te fa la fare bella figura. Veramente sì. sono meglio io la portare. Chitarra. Omaggio, per non favore. Non mi vuoi più, eh? No, no, hai ti paura, sì. hai paura. Dopo quello che ho letto dei Chai Chi, Pucciucciu, Maciacià, non te voglio più vedere. Va bene, signori, grazie di averci seguito, grazie di volerci così grazie bene. Grazie a tutti per l'ascolto. A domenica prossima, no perché è Pasqua. Posso, chiudere, una... sì. posso chiudere dicendo sì. una cosa? Dilla. Lo dico da donna, non solo da ambasciatore UNICEF. È vero, dovevamo parlare veramente, di veramente, veramente. Aiutiamo i bambini, sono gli adulti di domani. Quindi andate su www.unicef.it, per esempio, oppure 745000, che è il conto corrente, ma i bambini siriani veramente hanno bisogno d'aiuto. E ognuno di noi può fare qualcosa. Bene, grazie di questo bellissimo appello. Grazie Maria Somaggio, grazie Lucilla, grazie a voi radioascoltatori. Ci vediamo, ci sentiamo, scusate il mio vediamo, abituato a lavorare in televisione. Dopo Pasqua, nel frattempo buona Pasqua, andrà una puntata di montaggio, ma il 23 torniamo. Auguri a tutti, vi voglio bene e grazie di volerci così bene.